Tempo di sport con Carlo Genta. Buon pomeriggio a tutti, senza l'assillo dolcissimo peraltro della Serie A, un pomeriggio dedicato di 2 ore e mezza comunque, come ogni domenica, dedicato a voi, alle vostre telefonate, alle vostre opinioni. 800 24 00 24 è il numero verde, messaggi 349 238 6666. Tra un po' mi dovrebbe raggiungere anche il mio abituale compagno del sabato, cioè Andrea Zorzi, che stiamo aspettando, ma i temi sportivi comunque sono tanti. A cominciare da quelli motoristici, perché finita la stagione dello sci, senza soluzione di continuità, ecco che apriamo con i motori. Mi voglio dire che se il buongiorno si vede dal mattino, un po' piove sulla Ferrari, perché la gara di Melbourne, anzi il weekend di Melbourne, non è stato esattamente brillante. Per chi si è svegliato presto stamattina alle 8 e ha visto questa gara, avrà avuto l'impressione di un Sebastian Vettel, campione del mondo in carica, al momento imprendibile per tutti, ma soprattutto per la Ferrari. Vettel ha vinto questa corsa davanti a Lewis Hamilton, che ha comunque dato segni di grande competitività. Terzo, il primo russo della storia a salire su un podio, Vitaly Petrov con la Renault, tutti a dire ma se ci fosse stato Kubica forse sarebbero stati ancora più competitivi. Beh, Petrov è stato in realtà bravissimo oggi, non so come sarebbe andata con Kubica, ma non lo sapremo mai per quanto riguarda questa corsa. Quarta la prima Ferrari, quella di Fernando Alonso, ad oltre 31 secondi dal vincitore, che non sono poi moltissimi parametrati a quelli raccimolati da Alonso ieri in prova. Quinto Webber, con l'altra Red Bull, sesto Button. Settimo ha risalito Felipe Massa, a causa che era nono, però sono state squalificate le due Sauber, dunque due posizioni guadagnate in classifica. Ottavo Buemi, nono Sutil, decimo di resta, quindi via via tutti gli altri e ciò che resta. Carlo Vanzini, buongiorno. Ciao, buongiorno a tutti. Ciao, dicevo prima, se buongiorno si vede al mattino un pioviggina su Maranello. Beh, sicuramente la Red Bull ha fatto una grandissima corsa, però l'ha fatta con Sebastian Vettel. Se andiamo a vedere la prestazione dell'altro pilota, Mark Webber, hanno qualcosa da analizzare anche loro. Sebastian Vettel secondo me ha la macchina quest'anno veramente costruita su misura per lui, e qui sta la differenza con il compagno di squadra. Ha fatto una corsa straordinaria, ci resta un po' il rammarico di non sapere come sarebbe andata se Fernando Alonso avesse azzeccato la partenza, se non avesse avuto quel problema di traffico, è finito sull'esterno e non aveva trazione per riuscire a tenere la posizione ed era nono. Poi ha fatto una grandissima rimonta, hanno dovuto anche sfruttare questa strategia particolare per cercare questa rimonta, però durante la gara i tempi di Alonso erano a livello di Vettel Hamilton. Bisogna vedere quanto stava gestendo la corsa Sebastian Vettel, e poi non dimentichiamo alla fine Massa ha fatto anche il miglior tempo in corsa. Quindi la Ferrari degli aspetti positivi dai quali ripartire sicuramente da questo Gran Premio li ha. Fatica molto in qualifica, in gara secondo me la Ferrari non è a livello da Red Bull, ma non è neanche così male. Non è neanche così lontana. Alonso molto onesto dopo il traguardo, massimo poteva arrivare terzo, ha detto, al netto di quei problemi cui tu facevi riferimento in partenza. La partita molto bene, poi chiuso, ha perso diverse posizioni. Sentiamo cosa ha detto insieme. La partenza è andata bene, poi ho frenato all'esterno, Petrov ha rischiato molto in partenza, è entrato all'interno, ha chiuso un po' Button, e Button per evitare Petrov è andato un po' contro di me, quindi alla fine un po' di casino in generale, abbiamo perso un po' di posizioni. Alla fine non penso che abbia cambiato molto la situazione della gara, con Vettel e Hamilton davanti a tutti, forse potevamo arrivare terzi ma non più. Penso che ero ottavo, nonno a un punto della gara. E abbiamo pitato, abbiamo sorpassato due macchine, poi abbiamo pitato ancora, abbiamo sorpassato Webber, quindi abbiamo fatto una sosta in più, ma obbligati. Questo Alonso, dunque, molto onesto, dicevo, massimo potevamo arrivare terzi. Carlo, se c'è un pregio che Alonso ha tra i tanti è che se può, che normalmente il massimo risultato possibile lui lo centra, probabilmente l'avrebbe centrato anche oggi senza quei problemi in partenza per l'appunto. Sì, sicuramente, sarebbe stato lì a giocarsela, secondo me poteva anche puntare a qualcosa in più della terza posizione guardando i tempi e il ritmo poi durante la gara. Certo è, se fosse stato lì con Vettel e Hamilton probabilmente seguiva la loro strategia, quella delle due soste, quindi anche il suo ritmo sarebbe stato poi diverso rispetto a quello che ha avuto nel corso della giornata. E io ho sempre sostenuto che quello che dice Alonso va ascoltato bene attentamente, perché è uno che dice sempre le cose come effettivamente stanno, così come lo scorso anno diceva aspettiamo fino all'ultima gara per quanto riguarda il titolo mondiale, anche quando era meno 48 tutti gli davano del pazzo, invece alla fine aveva ragione lui. Senti, Hamilton e la McLaren a che punto stanno nella corsa, in questo inizio di corsa al titolo? Ma stanno molto bene, perché la McLaren è stata assolutamente un disastro nel corso dei test invernali, non tanto sulla prestazione assoluta quanto sull'affidabilità, sulla continuità. Praticamente non sono mai riusciti a simulare un gran premio, la durata di un gran premio. Infatti tutti pensavamo a una McLaren molto fragile sulla distanza, in realtà è arrivata con tutte e due le monoposto. Button ha avuto questo problema di sorpasso a Felipe Massa e poi la penalizzazione che ha subito. In pochi l'hanno notato, secondo me la Ferrari lì è stata anche, se vogliamo, intelligente, scaltra, non so come giudicarla. Quando Button ha sorpassato Felipe Massa tagliando la chicane, lì hanno fatto rientrare Massa ai box, non avendo più nessuno a cui ridare la posizione Jenson Button, in automatico scatta la penalizzazione drive-thru e in quel modo Alonso ha guadagnato ancora un'altra posizione, quindi si è un po' sacrificato. Per questo secondo me Massa si è lamentato un po' per la strategia, si è un po' sacrificato il brasiliano per la causa Alonso già al primo Gran Premio. Questo non si è tanto sottolineato, secondo me lì proprio c'è stata una strategia. Però McLaren assolutamente forte, competitiva. Oggi secondo me si è notata anche la differenza tra il manico Sebastian Vettel nei confronti di Webber, Hamilton nei confronti di Button, Alonso nei confronti di Felipe Massa, quindi già questa prima gara ha delineato un po' le forze all'interno delle scuderie. Io continuo a pensare che quello delle gerarchie sia un problema da risolvere alla svelta per la Ferrari, ma anche per gli altri, insomma, perché non condivido l'idea di arrivare in fondo con i due galli che si tolgono i punti, insomma. Sì, è sempre un po' una scelta, l'ha fatto la Red Bull lo scorso anno, abbiamo sempre detto che hanno lasciato gara aperta i due piloti, in realtà la loro scelta l'avevano già fatto puntando su Sebastian Vettel, per quello sono arrivati ancora in gara tutte e due fino alla fine. Se avessero puntato a un certo punto su Webber che era davanti, Webber avrebbe vinto lui il mondiale, ma loro volevano vincere il mondiale con Sebastian Vettel, quindi anche lì si diceva non fanno conti, lasciano gara aperta, in realtà volevano tenere aperto il mondiale per Sebastian Vettel. Secondo me sì, le scelte vanno fatte. Certo, in McLaren Hamilton è indubbiamente il più forte, però Button anche lui è un campione del mondo. Per il resto penso che non ci siano tante discussioni da fare per quanto riguarda gli altri piloti, e anche in casa Mercedes dovranno anche lì decidere di dare più sostegno a Rosberg che non a Schumacher, almeno visto anche come è partito questo mondiale. Anche se questa è una scelta molto difficile, molto difficile anche per Schumacher che dovrebbe subirla. Io non credo che potrebbe accettare qualcosa del genere. Carlo, la gara di Petrov, si diceva prima, primo russo su un podio mondiale in Formula 1, in realtà è stato molto bravo al di là di ciò che dicevo prima, di ciò che si è detto, se c'era il povero Kubica chissà come andavano eccetera, eccetera. Kubica che appena salito su quella macchina ha subito fatto un tempone durante i test invernali, sembrava una macchina tagliata su misura per lui, però al di là di tutto questo è stato bravissimo Petrov. Petrov è stato bravissimo già l'anno scorso ad Abu Dhabi nel Gran Premio conclusivo, quando ha tenuto dietro Fernando Alonso, non si è fatto prendere dalla pressione, lui ha continuato a fare la sua corsa in modo anche se vogliamo elegante, sportivo, perché poi ci sono state polemiche, doveva lasciar passare Alonso eccetera eccetera. Oggi ha fatto un'altra gara straordinaria, perché quando Alonso ha alzato il ritmo, gli si è fatto vicino, quando ha iniziato a vedere gli specchietti, beh, anche lui ha alzato il ritmo e non ha commesso errore. Questo è l'aspetto più importante, perché quando un pilota come Petrov è lì e ha portata di mano il primo podio per la Russia e sa che un Fernando Alonso, due volte campione del mondo, gli sta arrivando dietro con una velocità impressionante, beh, l'errore ci può stare. Invece lui ha sempre mantenuto la calma, non ha mai perso tempo, non ha mai commesso errore da perdere tempo nei confronti di Alonso. Perdeva tempo perché aveva fatto una sosta in meno, quindi aveva le gomme più deteriorate rispetto a Fernando Alonso, però devo dire davvero ottima gara. Io sono uno di quelli che dice peccato non ci sia Kubica, perché sì, Kubica, un grande rammarico di Kubica dopo l'incidente che ha avuto nei rally è proprio quello di una delle prime cose che ha detto: no, proprio quest'anno che sapevo di avere una macchina vincente. Lui l'ha detto subito appena l'ha provata questa macchina, ha detto abbiamo una macchina estremamente competitiva, l'ha detto più a microfoni spenti che non a microfoni accesi. Con Kubica certo non lo sapremo mai, aspettiamo, certo. Speriamo che torni presto e così avremo le risposte che dalle domande alle certo. Nostre domande. No, ma speriamo che torni il prima possibile Robert Kubica, al di là di tutto. Caro, un'ultima cosa che ti chiedo anche da uomo della televisione, no? Perché uno degli effetti più evidenti di oggi è stato questo gioco dell'ala mobile contro Kers. Si vede molto bene in televisione quando quest'ala si apre, quando si accende la luce rossa sul cruscotto, e questo regolamento un po' bizantino consente l'apertura dell'ala mobile, vedi questa fessura nell'alettone posteriore, e si è visto un'evidenza di effetto di questa ala mobile nel sorpasso di Button. Sì, guarda, permettimi di fare un promo a un evento che trasmettiamo questa sera, tra poco andrò a commentare alle 19 certo, su certo. Sky Sport Extra. Trasmetteremo tutto il campionato IndyCar, che è la Formula 1 americana, e lì potremo vedere delle differenze di come molto semplicemente in America cercano lo spettacolo senza cose così complicate come l'ala mobile, il KERS, ma dando più potenza ai motori con un bottone da utilizzare, insomma ci sarà differenza. Io vi consiglio di seguirla perché capiremo come si può dare spettacolo all'automobilismo senza cercare cose complicate. L'ala mobile è rimandata a un altro circuito dove ha più senso. Qui il rettilineo era troppo breve per capire effettivamente l'utilizzo dell'ala mobile. Già in Malesia con un rettilineo più lungo vedremo se effettivamente sarà funzionale, perché ci aspettavamo almeno 20 sorpassi con l'ala mobile, in realtà di sorpassi grazie all'ala mobile ne abbiamo visto pochi. Ieri dicevo, commentando a Sky Sport 24, che secondo me è un'ottima trovata per gli sponsor, perché è molto molto inquadrata l'ala posteriore, certo. E lì c'è una bella scritta di tutti gli sponsor delle varie scuderie. Oggi sentivo dire che bisognerebbe permettere l'utilizzo dell'ala mobile così come in qualifica, quando il pilota vuole, sempre, d'accordo. Me è giusto, però attenzione, per cambiare il regolamento serve l'unanimità di tutti i team, e secondo me la Ferrari un punto debole ce l'ha in questo, nell'utilizzo dell'ala mobile in qualifica. Secondo me gli altri hanno studiato meglio l'utilizzo di quest'ala quando si può usare liberamente durante tutto il giro, mentre la Ferrari si concentra più a capirne l'utilizzo proprio per il sorpasso, per l'utilizzo in rettilineo in gara. Però non lo so, secondo me ci sono altre soluzioni per rendere più spettacolare la Formula 1, perché alla fine, come dicevo, di sorpassi grazie alla mobile non è che ne abbiamo visti tanti quanti ci aspettavamo. Ha fatto più spettacolo, complimenti, perché sono stati di parola, ha fatto più spettacolo la Pirelli con le gomme nuove, con le strategie un po' diverse, e poi avevano ragione loro a dire che i pit stop sarebbero stati massimo 3, mentre si aveva paura di farne 4-5. In realtà è stata una gara bella anche sulla scelta delle gomme. Le gomme sono sempre state decisive in Formula 1. E questi sono altri temi di cui tra poco continueremo a parlare. Grazie Carlo, buon lavoro e buon commento. Grazie a voi, ciao. Per la Formula Indy, che è una novità assoluta almeno per i nostri schermi. Adesso ci fermiamo un attimo, vedo Andrea Zozzi che sta per raggiungermi, eccolo là. Continueremo a parlare anche con voi, se ne avete voglia, di questo avvio del mondiale di Formula 1. Chissà se Zorro ha visto la gara, tra poco glielo chiedo. Traffico. Strade in diretta. In apertura una segnalazione dalla Sicilia sulla 20 Messina-Palermo: è stato chiuso per un incidente il tratto compreso tra Patti e Brolo sulla carreggiata verso Palermo. Ancora per incidente il traffico è rallentato sulla A4 Torino-Milano tra Novara Ovest e Novara Est verso Milano. Sul tratto Brescia-Padova rallentamenti per lavori tra Sirmione e Desenzano verso Brescia. Torniamo in Piemonte: si rallenta per lavori sul raccordo Ivrea-Santhià in direzione della A4 Torino-Milano. Code per lavori sulla 10 dei Fiori in Liguria tra gli svincoli di Imperia, proseguendo verso Genova, traffico intenso e rallentato tra Finale Ligure e Spotorno. Sulla Firenze e Pisa-Livorno, altre code per lavori tra Ponte d'Areste e Montopoli-Valdarno verso Firenze. Code verso la Svizzera sulla 9 Lainate Como-Chiasso, tra Como Monte Olimpino e Chiasso, traffico intenso anche verso la Francia, al traforo del Monte Bianco, l'attesa è di circa 30 minuti. Per il momento è tutto, Strade in diretta torna tra mezz'ora. Promo 24. Impresa semplice di Telecom Italia. Non solo telefonia, ma anche soluzioni informatiche per lavorare e comunicare in modo conveniente e innovativo. Con Impresa semplice a partire da 10 euro al mese più IVA per 24 mesi si può scegliere tra gli smartphone di ultima generazione con 2 GB di navigazione e assicurazione casco incluse. E ogni due anni si può avere un modello nuovo, senza costi aggiuntivi. Impresa semplice, il meglio di Team e Telecom Italia per il business. Altre info sull'offerta, condizioni di recesso e costi su www.impresasemplice.it o chiamando il 191. A tempo di sport. Torniamo insieme. 800 24 00 24, numero verde valido come ogni domenica fino alle 19, poi dalle 8 e mezza alle 9 vi racconto il basket. Ecco Andrea Zorzi, ciao Andrea. Ciao, ben ritrovato. Oggi finalmente ce la prendiamo larga, eh? Non più chiusi nell'oretta del sabato. Oggi senza, dicevo prima, dolcissimo assillo del campionato di calcio. Per oggi, per le nostre chiacchiere, per le chiacchiere con i nostri ascoltatori, ce la prendiamo comoda. Visto che di solito alla fine dell'ora si dice: ma come? Già finita, ma è durata poco, quanto dura? Io con l'occhio che guardo il cronometro che scorre inesorabile. Sì. Ma l'hai vista la corsa? No, ho letto dopo un po' di cose. Hai letto dopo un po' di cose? Ho visto un po' di partenza, un po' di immagini, quelle che hanno fatto vedere sullo sbandamento di Alonso, sulla vittoria facile di Vettel e di questa faccia sorridente del giovane ragazzo che dice: e uno! Il tedeschino, antipersonaggio, un po' antidivo. Leggevo prima questo servizio su Sport Week, colleziona dischi dei Beatles in vinile, va a vedere le partite dell'Eintracht Francoforte in curva col cappello per non essere riconosciuto, perché lui piace andare lì nell'intervallo a mangiare la salsiccia, sta molto tempo col fratellino di 12 anni, un po' antidivo, un po' antipersonaggio. Poi c'era questa carrellata di piloti invece del passato, copertina James Hunt che tra le tante cose che ha detto: ma sì, le donne sono come i Kleenex. Potrebbe essere anche la nuova forma moderna di divismo vero, quello un po' più accettabile, però effettivamente è vero che la Formula 1 per anni ci ha abituato ad essere proprio quel luogo nel quale venivano fuori le parti peggiori o comunque le più eclatanti, via, dell'essere divi. Eppure, evidentemente è uno che sa perfettamente di essere un personaggio a livello mondiale, però lo fa con quella naturalezza che gli permette forse di fare una vita anche più equilibrata. Sì, più equilibrata. Sì. Io però impazzivo quando Mario Poltronieri nel 76 raccontava quel duello tra Hunt e Niki Lauda. Ciao Mario. Ciao, buonasera a tutti. Ne hai qualcun'altra? Allora, ne hai qualcun'altra su James Hunt prima di parlare della corsa di oggi? Oltre alle donne sono come i Kleenex, oltre alle feste tutti in smoking e lui in jeans e a piedi nudi. Senti, però, visto che facciamo questi richiami, ti dirò che mi è venuta, vedendo la gara, l'idea di citare Tomasi di Lampedusa, perché la frase "cambiare tutto per non cambiare niente" si adatta perfettamente a questo cambiamento notevole, perché la graduatoria è rimasta la stessa: Red Bull, McLaren, Ferrari, Mercedes ha avuto dei problemi, non sarebbe lì, e Renault. Allora c'è qualche cosa che non va, secondo me, ed è appunto questa rincorsa di fare lo spettacolo a tutti i costi, inventando tante cose. Ora, di positivo c'è sicuramente questo risultato della Pirelli, perché appunto si aspettavano tanti cambi, invece ce ne sono stati meno. Non si è capito bene in realtà se Flap e Kers siano serviti veramente. Direi che bisogna aspettare il prossimo circuito, cioè quello del 10 di aprile a Kuala Lumpur, che è uno dei circuiti tipici appunto dell'ingegnere Tilke, che possono piacere o non piacere, ma almeno si hanno dei termini di riferimento precisi rispetto a lì. Però tutto sommato non mi pare che sia molto cambiato questo campionato. Io sono sempre della mia idea, cioè appunto che si continua a cercare, guarda, io la chiamo la formula Fucas, Formula 1 complicazione affari semplici, perché non è possibile cercare di aggiungere costantemente qualche cosa per dare uno spettacolo che poi più o meno è sempre lo stesso, spendendo tanti soldi. Io francamente non lo conosco, però come quadro generale la gara di oggi non mi è dispiaciuta. Se il campionato va avanti così è sicuramente combattuto. Ecco, abbiamo più personalità in certi piloti, parliamo di Petrov eccetera, quindi può funzionare. Mi ha deluso un po' Button, che di solito è un pochettino più vicino ai primi. Quanto alla Ferrari, qui il problema è molto delicato, nel senso che rispetto alle prove di qualificazione ha migliorato un po', però bisogna riuscire a capire il problema vero, se è in un errore o difficoltà di messa a punto dell'assetto o se c'è qualche problema più a fondo, cioè qualche cosa che diciamo nel progetto è stato impostato in modo che poi forse non corrisponde a quelle che erano le speranze del progettista. Quindi è una fase delicata questa qua per la Ferrari. Certo, si tratta di capire quanto lungo sarà l'inseguimento, Certo, se tornando alla questione della spettacolarità, poi Bernie Eccleston dice: beh, bagniamo le piste, inondiamo le piste d'acqua e poi gli diamo tutti del pazzo furioso, come magari anche Andrea. Ma a proposito di complicazione affari semplici, in questi giorni si leggeva nei giornali che il responsabile della Pirelli ha dovuto dire: ci hanno chiesto di fare le gomme che si consumano velocemente, perché la nostra politica come Pirelli è fare le gomme che durano. Certo. Quindi clienti delle macchine normali, non preoccupatevi, non è che la Pirelli fa le gomme che si consumano dopo 15 minuti, è che per rendere più spettacolare, per fare più pit stop, ci hanno chiesto di fare qualcosa che è contro la nostra mission. Pensa a che punto siamo arrivati. Non è male questa, Mario? Sì, è una follia questo cercare a tutti i costi i succedanei al vero spettacolo. E qui si vuole la battaglia ruota a ruota. Insomma, non dimentichiamoci che il colpevole, tra virgolette, di tutto questo è Colin Chapman, quando è riuscito a portare l'aerodinamica a un'importanza notevole, l'effetto suolo, poi le minigonne, eccetera. Quindi si è falsata completamente quella che un tempo era la funzione della Formula 1, cioè formula di ricerca. A me piace tanto quando Montezemolo dice che serve per lo sviluppo delle vetture di serie, forse per lo sviluppo di alcuni particolari della Ferrari, ma se no non serve a niente, perché quale mai è la macchina di serie che può avere bisogno di questa aerodinamica? Ricordo ancora quello che ha detto Todd, che tra l'altro sta litigando con Eccleston, o viceversa, Eccleston con Todd: non è ammissibile avere delle vetture che consumano 80 litri per 100 km. È un non senso. È vero che Eccleston dice sempre: ma noi facciamo solo spettacolo, la ricerca eccetera non ci interessa. Non è vero, è sbagliato, perché in un mondo in cui ci si preoccupa appunto della mancanza di fonti energetiche, non parliamo proprio di questi ultimi giorni, ma già in generale del problema del recupero dei materiali, insomma ci sono una serie di situazioni in cui la Formula 1 avrebbe la possibilità di fare delle sperimentazioni interessantissime, ottenendo lo stesso lo spettacolo. Certo. Se no, torniamo alla formula, quella tanto vituperata, proposta da Mosley e tutto sommato sostenuta adesso da Todd, uscito dalla Ferrari, e cioè di fare delle macchine più normali, più semplici, dove si vedono le ruotate, dove si vedono le sbandate, insomma, quella è divertente. Certo, torniamo alla semplicità dell'attrezzo a quattro ruote, insomma, di cui tante volte abbiamo parlato. Senti, caro, scusa, noi perché guardiamo con tanto piacere la motocicletta? Perché c'è questa sensazione di instabilità, questo rischio continuo di volare. Nella Formula 1 non si percepisce, così come non si percepisce la velocità. Sì, è chiaro. Per cui è chiaro. Inutile andare a 320, se tanto 230 è lo stesso. E poi, come ti dico, con quel freno dato dall'aerodinamica, è chiaro che abbiamo i consumi elevati e la velocità bassa. Ma la filosofia, non dimentichiamoci mai che il discorso di fondo è: il progettista si diverte e l'organizzatore, inteso come carrozzone, guadagna. Certo, questa certo. È la base della quale Formula 1. Però si può lo stesso fare quello che piace fare ad Eccleston, ma farlo in condizioni un po' più normali, invece che ci si sta avvitando adesso su se stessi, perché il ritorno del KERS, che non era altro mai stato tolto dal regolamento, quando è stato messo nel 2009 non ha avuto successo, nel 2010 non è stato vietato, c'era ancora ma nessuno l'ha messo, e adesso siamo ancora qua a dire: ma perché la Red Bull forse non l'ha usato, eccetera, mentre invece il KERS è un elemento importantissimo nella logica dello sviluppo. Sicuro. Perché potrebbe sì dare qualche cosa di interessante al prodotto di serie. Beh, ma mi sembra che questa sia una preoccupazione molto lontana, molto lontana da quelle di chi gestisce il circus, come dici tu, Mario. Ti ringrazio, Mario. Siamo alla fine dell'ora, ma naturalmente avremo tutta l'estate per chiacchierare fino alla fine dei mondiali. A proposito di personaggi, ricordare oggi Superbike Donington. Dopo la Super Pole di questa mattina, Melandri e Biaggio ovviamente si pigliano a schiaffi in faccia. Poi gara, Melandri, gara strepitosa, gara 1, vince con la sua prima gara in Superbike, Biaggi settimo, e adesso poi vi dico com'è andata la seconda. Grazie Mario, grazie. Ciao, grazie a Mario Poltronieri. Non male, mani addosso, mani in faccia, mi piace Melandri oggi. Per tornare un po' a quelle parti che ci fanno sentire che c'è del cuore dietro dell'anima. Bravo. Abbiamo tanto tempo per parlare oggi, Andrea, 2 ore a partire da ora e fino alle 19. Dopo il GR torniamo insieme. 800 24 00 24, se volete parlare con noi. A tempo di sport. Ecco che torniamo dopo la prima mezz'ora dedicata doverosamente al Gran Premio di Formula 1, e ogni domenica dedicheremo questa prima mezz'ora, anche calcio compreso naturalmente, agli sport dei motori che sono partiti di gran carriera. E poi adesso 2 ore per chiacchierare insieme con Andrea Zorzi qui vicino a me e con voi naturalmente. 800 24 00 24 numero verde. C'è chi domanda che ha fatto la Bennett Cantù via SMS. La Bennett Cantù ha vinto a Sassari all'ultimo respiro, e dalle 8:30 alle 9 vi raccontiamo questa e tutte le altre partite. Vi do sempre per la cronaca anche i finali in Serie B, che oggi teneva al centro del palcoscenico in assenza dell'A. Ieri l'anticipo con ingordo Torino dell'Erda Bis ad Ascoli 4-0, quindi Padova-Atalanta 1-1, l'Albino Leffe che ha battuto 3-1 il Novara, il Crotone che ha battuto 3-2 l'Empoli, Grosseto-Cittadella 1-1, Modena 1-0 al Pescara, Porto Gularo che vince 2-1 a Piacenza, il Siena anche in questo caso ingordo con il Sassuolo 4-0, doppietta di Calaiò, Reginaldo e Mastronunzio, 2-2 tra Triestina e Frosinone, Varese che batte 1-0 il Vicenza, c'è anche un posticipo questa sera Regina Livorno. Per ora in classifica Atalanta 64, Siena 63, Novara ormai molto staccato 55, Varese 54, Regina 47, e via via tutte le altre fino alla Triestina che chiude la classifica con 30 punti. Nella cronaca di oggi c'è anche una coppa di pallavolo in ballo col tuo amico Lollo Bernardi, che ha detto: Trento ti farò scherzetto. Poi scherzetto non... Nella chiamata c'è anche una coppa, la finale di Champions League, esatto. Il torneo più importante della stagione europea. Ci mancava un minuto, la coppetta vi state giocando. Ma ho visto oggi un'intervista di Lorenzo dopo la sconfitta di ieri con i suoi minatori, sai che quella è la squadra di cui abbiamo parlato l'anno scorso, perché sì. Santilli era l'allenatore. Sì. È arrivato in situazione piuttosto complicata, non è riuscito Lorenzo Bernardi a risolvere la situazione in campionato, però ha fatto questo straordinario exploit per arrivare alla finale. Ha iniziato dicendo: io ti favo per lui. Ha iniziato oggi dicendo: di solito chi vince festeggia e chi perde spiega. Io ho perso ma non voglio spiegare. Però no, davvero Lorenzo, tanto mi è piaciuto molto, perché l'ho visto oggi e per una volta ho avuto l'impressione che anche l'immagine stessa, la sicurezza con la quale parlava i giornalisti, rappresentasse che il suo passaggio, almeno dal punto di vista dell'immagine, ad allenatore vero e proprio. Perché ti ho detto molte volte, ti ho già detto che secondo me questo passaggio da giocatore ad allenatore è molto complicato, un po' più complesso di quanto possa sembrare. Sì, e non aveva, me lo dicevi anche una settimana fa, non aveva tantissime chance contro Trento, a meno di miracoli che però non sono così semplici, ma non si inventa tantissimo. Magari oggi di qualche strano miracolo ne parliamo, almeno sì, di vincitori che non erano pronosticati. Oggi e questo sì. Sarebbe stato però una bella sorpresa, anche perché Trento è campione in carica consecutivo, è una squadra che per adesso sembra temere solo Cuneo, l'unica squadra che riesce a batterlo, campione in carica, campione del mondo in carica, gioca praticamente in casa, anche se Bolzano non è esattamente la sede di Trento, però riteniamo che l'organizzazione è loro, e quindi oggi con la Dinamo Kazan invece sarà una bella partita di quelle equilibrate, difficili, dure, anche perché guarda caso Dinamo Kazan è questo mix strano ma quasi perfetto di forza russa, intelligenza e pragmatismo americano. Sì. Le due cose messe insieme di solito danno buoni risultati. Senti, ma ti aspettavi tu, due ascoltatori giannini, entrambi da Roma, il primo si chiama Umberto e il secondo Fulvio, tra un attimo arriviamo, state lì, 800 24 00 24, continuate a chiamare. Ti aspettavi che un, sempre sul passaggio allenatore-giocatore, giocatore-allenatore, che un tipo un cazzoso come, come Lorenzo, almeno da giocatore, grande agonista, però uno che insomma era uno di quelli che più litigavano forse sotto rete, più battibeccavano sotto rete, ti aspettavi che potesse diventare, assumere un ruolo molto difficile, molto complicato anche dal punto di vista emotivo come quello dell'allenatore? Dunque, cioè non mi sembrava esattamente il più indicato per fare allenatore in quella internazionale. No, questo è corretto, però credo anche che ci siano varie modalità per essere allenatori. Ciò che è veramente importante è trovare il modo in cui certi caratteri possono diventare dei buoni allenatori. L'esempio calcistico è tra Mourinho e Ancelotti. Ci sono due mondi di differenza. Ancelotti allena benissimo a modo suo, Mourinho lo fa in un altro modo, Prandelli a modo suo, Velasco, Montali. Quindi non c'è un solo profilo, una sola ricetta, una sola modalità per essere un grande allenatore. Nel caso di Lorenzo, quello che è stato come giocatore un grandissimo valore, una determinazione, un'autoesigenza, una forma maniacale nel senso quasi positivo di attenzione verso la pallavolo, sono una opportunità ma anche un rischio. Perché occorre poi capire, quando fai l'allenatore, non sei tu in campo a fare il gesto a decidere, devi capire come trasferire queste tue abilità. Nel caso del Lollo, di Lorenzo, punto molto sul fatto che per lui la pallavolo sia veramente una grande priorità. In quanto tale potrà anche superare le difficoltà che naturalmente incontrerà, ma rimane una motivazione per lui vitale. Sì. E questo, secondo me, è una bella base di partenza. Non è garanzia per diventare un grande allenatore, ma intanto la determinazione, secondo me, è una buona virtù. Ah, non c'è dubbio. In generale, in assoluto, non solo nello sport, quello che più mi ricordo, facevo un parallelo calcistico, quello cui più lo posso associare è Roberto Mancini. Come personalità che aveva in campo e che può avere, non so, da allenatore. Anche Mancini in campo era un tipo alla Bernardi. Guarda, da compagno di Lorenzo e anche da avversario di Lorenzo, più che puntare sul suo essere un po' irascibile, sì, ed effettivamente era così, io punterei molto sull'autoesigenza, sulla determinazione. Lorenzo è una specie di grande robot, non l'ho mai visto in 15 anni o 12 anni con cui ho giocato con lui mollare un istante. Tutti gli allenamenti, tutte le ore, per Lorenzo la schiacciata, la ricezione era la cosa più importante della sua vita. In questo senso con Mancini, conoscendolo molto molto meno bene, ho un'idea un po' diversa di un personaggio molto talentuoso, capace anche di essere polemico volendolo. Per Lorenzo era proprio il fatto che quello è il suo mondo. Poi vedi, queste cose le chiedi anche ai tuoi giocatori, non è detto che te le diano, eh? Questo temo potrebbe essere per Lorenzo, però. E per Mancini va lo stesso, cioè il talento che tu, ma sì, ma quella cosa, ma io te la faccio bendato, occhi chiusi, con le mani legate, no? Mister, non riesco a fare, ma come, guarda, ricezione perfetta, ma a me non viene, guarda, no, non basta. Questo potrebbe essere un problema. Guarda, ne abbiamo parlato una volta, credo. Sì. La difficoltà maggiore per un atleta molto talentuoso è che non ha dovuto fare 1100 esercizi per imparare un fondamentale gli facile. Ne ha fatti tre e poi gli viene facile. Dunque, vince Ceca gara 2 del Gran Premio d'Europa di Superbike. Vince Ceca davanti a Melandri, che aveva vinto gara 1. Biaggi fermato dalla bandiera nera, e giornata nerissima per Max Biaggi. Prima mani in faccia con Melandri, dicevo prima, nella corsia dei box dopo le prove di stamattina. Poi settimo in gara 1 e poi fermato dalla bandiera nera in gara 2. Sarà furibondo, immagino. Umberto da Roma, buonasera. Buonasera. Dica. Io ho bisogno di una cortesia. Due, se possiamo. Senta, io ho 74 anni. Sì. Cammino molto male. Sì. Non ho il televisore. Sì. E ho soltanto la radio e che posso sintonizzare solo su Radio 24. Sì. Le sembrerà strano, ma è così. Allora, io volevo sapere la formazione dell'Italia che ha giocato in Slovenia, perché voi date sempre i due giocatori davanti e il resto non esiste. Beh, giusto? Vero? Non così vero, non così, però sa, l'Italia in Slovenia ha giocato ormai due giorni fa. La formazione la ridiamo volentieri su richiesta, su gentile richiesta, la accontentiamo con piacere, però potremmo ripetere la formazione della nazionale ogni quarto d'ora per una settimana. Comunque il centro di quella formazione è che davanti c'erano, la ragione, Cassano e Pazzini, l'abbiamo detto mille volte, ma forse più interessante ancora era il centrocampo con Thiago Motta, che ha risolto questa partita, con Aquilani che ha giocato molto bene, con Montolivo, ed era un centrocampo molto azzardato, volendo molto tecnico. Tra poco, tra l'altro, ne abbiamo un appuntamento dopo il traffico per parlarne con calma. In porto naturalmente c'era Buffon, Bonucci, Chiellini, poi Andrea. Certo che Umberto ci mette un po' una curiosità. Sì. O vivi in un posto strano in cui solo Radio 24 arriva, o c'è la radio, taroccata, la radio bloccata, noi. Che potrebbe essere interessante come gioco, perché è bella questa idea che può vedere solo, anzi non può vedere la TV e ascoltare solo Radio 24. Sì, sì, distribuiamo. Ma non è col marketing di Radio 24, può essere un luogo sul quale fare investimenti. Non è una brutta idea. Fulvio Roma, buonasera. Era. Buonasera, lei sente anche altre radio, giusto? Può sentire anche altre radio liberamente? No, dicevo, l'ascoltatore di prima ci diceva che dove lui si sente solo Radio 24. Lei, immagino, telefonava da Roma, lei non ha problemi nel cambiare eventualmente? Più o meno, perché sto vicino a Roma. Comunque volevo intervenire su Biagi. Sì. Io me lo ricordo Biagi. Biagi è un rissoso. Quando Rossi si apprestava a vincere il campionato del 125, lui già aveva un atteggiamento negativo nei suoi confronti, perché si sentiva minacciato nel suo ruolo di primo pilota italiano. Sì. E me lo ricordo anche quando gli passò vicino, quando Rossi passò il traguardo e lui gli passò vicino, insomma, mettendo anche a rischio di fare l'incidente. Adesso la stessa cosa sta facendo con Melandri, perché effettivamente Melandri rappresenta una vera e propria minaccia per lui, tanto è vero che sono fortemente contento perché è arrivato Melandri dato secondo e lui è stato squalificato. Sì. È una persona che è antipatica a tutti, è una persona che non riesce a capire che non è il miglior pilota italiano, non lo sarà mai, perché c'è Rossi, poi casomai verrà qualcun altro dopo di lui. Certo, è stato un ottimo pilota perché ha vinto il campionato delle 250, ma non mi ricordo mai che ha vinto un campionato 500 MotoGP. Quindi questo è il suo grande limite: non accettare la superiorità altrui. Sì, se riuscisse ad accettare questa la superiorità altrui, probabilmente farebbe anche meglio in pista. Stiamo parlando, insomma, prima con Andrea parlavamo di tutt'altro, no? Però di personaggi con una personalità particolare. Max Biaggi è uno di questi. Con Melandri non è un episodio di oggi, non c'è mai stato un grande rapporto, così come con Valentino Rossi non ha mai avuto un grande rapporto. Che ci vogliamo fare? Poi lo giudichiamo dalla pista. Certamente non è il più simpatico dei piloti su una pista, non è il più simpatico degli avversari se te lo trovi di fronte, non è il più simpatico compagno di squadra. Si diceva anche però che il motociclismo nelle varie competizioni è interessante anche perché mantiene questo rapporto molto diretto, anche qualche bisticcio ogni tanto. È vero poi che nello sport c'è questo aspetto che i conti alla fine si fanno in base anche alle vittorie, e quindi uno può anche parlare molto, ma uno se arriva primo, come dire, a scacchi può esultare, se arriva dopo lo fa un po' di meno, e quindi questa è un po' la giustizia dello sport. Chi vince festeggia, chi perde. Prova a spiegare. Non penso che oggi lo farà Max Biaggi, magari lo farà un altro giorno, che penso che oggi sia meglio lasciarlo stare. Ci fermiamo un attimo, traffico 800240024 per parlare con noi, a dopo. Strade in diretta. In apertura una segnalazione dalla Sicilia: sulla 20 Messina-Palermo è stato chiuso per un incidente il tratto compreso tra Patti e Brolo sulla carreggiata verso Palermo. In direzione Roma, sulla diramazione Roma Nord, ci sono code di 3 km per un incidente tra Fiano Romano e Sette Bagni. Sulla diramazione Roma Sud, code per il traffico all'innesto con il grande raccordo anulare. Andiamo in Liguria, code per lavori sulla 10 dei Fiori tra gli svincoli d'Imperia, e proseguendo verso Genova il traffico intenso e rallentato tra Albenga e Spotorno. Sulla Firenze Pisa Livorno, code per lavori tra Ponte d'Era Ovest e Montopoli Valdarno in direzione Firenze. Dopo un incidente risolto, il traffico è rallentato sulla A4 Torino-Milano tra Novara Ovest e Novara Est verso Milano. Sul tratto Brescia-Padova, rallentamenti per lavori tra Sirmione e Desenzano verso Brescia, proseguendo poi verso Milano altri rallentamenti per lavori urgenti tra Capriate e Trezzo. Torniamo infine in Piemonte, si rallenta per lavori anche sul raccordo Ivrea-Santhià in direzione della A4. Per il momento è tutto, il prossimo aggiornamento tra mezz'ora. A tempo di sport. 800240024, dicevo, numero verde, insomma, l'ascoltatore di prima molto critico nei confronti di Max Biaggi. In effetti non ha mai vinto un mondiale nella classe regina, 3 volte secondo nel 98, nel 2001 in 500 e poi nel 2002 in MotoGP eterno piazzato. Chissà che questo abbia influito comunque nel rendere ancora più spigoloso il suo carattere. Max da Udine invece domanda: trasportabile nel calcio una Final Four di Champions come nel basket e nel volley? Non lo so, magari poi ne discutiamo, secondo me è molto difficile. Però per accontentare anche l'ascoltatore di prima di Roma che diceva non posso sentire altra radio se non la vostra e voleva parlare della nazionale di calcio, allora oggi noi, Andrea, lo facciamo al massimo livello con il professor Mario Sconcerti. Buon pomeriggio Mario, grazie. Buon pomeriggio, grazie a voi. No, prima chiamo un ascoltatore, sono qui a Roma, non ho la televisione, la mia radio prende solo la vostra emittente, mi potete ripetere la formazione dell'Italia in Slovenia? L'abbiamo fatto e sarà stato contento, io spero, certo non potremmo ripeterla all'infinito. Mario, qui abbiamo il rappresentante vicino a me, Andrea Zorzi, di una nazionale che è stata grandissima sul serio, nei risultati e nella qualità, che è la parola più gettonata del momento. Come scrivi correttamente tu, secondo me almeno, questa non ha un grande valore assoluto, questa nostra nazionale, però è sobria e dignitosa e sono due valori comunque accettabili per il momento. Sì, direi che sobria e dignitosa sono le parole proprio corrette e devo dire che se vediamo da dove siamo partiti, se pensiamo all'estate scorsa e ai mondiali scorsi, io sinceramente non pensavo che avremmo rimesso insieme una squadra così in fretta. Resta il fatto che a livello internazionale, a grande livello internazionale, mi sembrano un po' tutti i giocatori ancora in divenire. Non c'è ancora il grande riferimento, non ci sono i leader, gli uomini squadra. C'è però un'ottima guida, c'è un allenatore che è cresciuto moltissimo, che forse è la persona adatta in questo momento, perché appunto, come mi è capitato di scrivere, forse più un parroco che un tecnico, perché proprio studia i giocatori uno per uno, li cura uno per uno, e qualche risultato lo stiamo avendo. Non sono mai questi risultati importanti, perché le qualificazioni per entrare tra le prime 16 in Europa, insomma, sono 16 in Europa, e calcola anche che la Slovenia, per quanto scomoda possa essere, è una squadra che ha un movimento che ha 30 volte meno i nostri abitanti. Insomma, certo. siamo davanti a movimenti piccoli, però certo. Comunque con le poche cose tecniche di qualità che abbiamo in questo momento, abbiamo costruito una nazionale dignitosa. Ma è interessante, perché negli sport olimpici di solito è l'anno dopo le Olimpiadi che ricominciano i cicli che puntano all'Olimpiade successiva, e quindi il valore generale cala un pochettino, perché atleti esperti e già maturi magari smettono, ricominciano quelli giovani che hanno naturalmente bisogno di un po' di tempo per crescere. Nel calcio questo ciclo è sfalsato, perché l'Olimpiade è un evento intermedio, invece il mondiale è quello per cui inizia a lavorare. È però interessante che Prandelli abbia avuto il coraggio e la costanza per dare questo segnale: vorrei ricominciare a ricostruire, pur con le qualificazioni per gli europei davanti, e lo fa non solo sul piano tecnico, ma anche sul piano dell'ambiente più in generale. E tieni conto che però la pressione esterna da parte dei media è piuttosto alta, perché la domanda su Balotelli, la domanda su Totti Del Piero non manca veramente mai, quando mi pare che tutti siamo d'accordo che sarebbe il caso di lasciare un po' di tempo, non in ogni caso, ma un po' di tempo per crescere un nuovo gruppo sul quale poter puntare. Tempo ce n'è pochissimo. Sì, c'è poco tempo e ci sono pochi giocatori. Credo che veramente il problema nostro sia questo: ci sono pochi giocatori italiani che giocano a calcio, perché ce ne sono pochi anche di inglesi. Loro hanno un grande movimento, ma sono pochi quanto i nostri. C'è un'incidenza di giocatori stranieri altissima, di quasi il 60%. E così da noi. Forse noi siamo spesso gelosi quando vediamo i giocatori italiani andare a giocare all'estero, invece dovremmo essere meno gelosi e mandarli più volentieri. Assolutamente. Perché più ne abbiamo e più abbiamo possibilità di scegliere. Così abbiamo veramente poche possibilità di scegliere. Ti faccio un esempio: ci sono in nazionale, proprio nella nazionale di venerdì scorso, due giocatori che Prandelli non ha più voluto nella squadra di club: Balzaretti con cui si lasciò malissimo, peraltro, Balzaretti e Pazzini. In nazionale li ha ripresi, e credo li abbia ripresi anche molto volentieri, proprio perché non c'è grande scelta. Questo gli fa onore, tra le altre certamente, cose. Questo gli fa onore. No, ma Prandelli, guarda, Prandelli è una persona perfetta. Questo proprio. Ma sai cosa? Sai, Mario, cosa mi è piaciuto molto? Tra le tante cose che mi sono piaciute in questa prima fase della gestione Prandelli, il modo in cui ha affrontato e risolto in maniera molto sbrigativa e molto decisa la questione degli oriundi, sulla quale i suoi predecessori avevano fatto, secondo me, troppa inutile filosofia. Una volta ne abbiamo anche parlato insieme. Tu parlavi di razzismo al contrario, il fatto di non chiamare un giocatore elegibile per la nostra nazionale semplicemente perché era nato da un'altra parte. Sì, ne sono ancora convinto, proprio anche partendo da un punto di vista tecnico, perché abbiamo bisogno di giocatori, di italiani a qualunque titolo, di italiani che giocano a calcio, appunto ne parlavamo prima, ma poi se oggi non possiamo pensare di continuare a inventare noi che cosa significa essere di un paese. Ci sono delle regole, ci sono delle leggi, questi sono italiani a tutti gli effetti, per cui non si possono, come ci sono i tedeschi, come ci sono gli spagnoli a tutti gli effetti, per cui non si può, assolutamente non si poteva continuare a ignorarli. Un'ultima cosa che ti voglio chiedere è questa: la grandezza, il valore di una squadra è parametrato spesso alla sua stella, no? Nel calcio mondiale di oggi Cassano non è tra le prime 10 superstar assolute, forse neanche tra le prime 20. No, a me sembra che Cassano sia una stella, una grande stella potenziale che si stia un po' offuscando. Io mi aspettavo molto di più da lui nel Milan. Evidentemente potrebbe darsi, non ho sicurezza, ma potrebbe darsi che lui proprio per giocare, per dare il meglio di sé, abbia bisogno di essere al centro del progetto, proprio di essere il protagonista del progetto. Quando se invece sente che si ha un po' paura della sua esuberanza, ho paura che anche lui faccia fatica a tirarla fuori questa esuberanza. Fatto sta che non è decisivo, nel Milan e non è decisivo in nazionale, e comincia a avere l'età giusta perché ha 28 anni. Certo. Dovremmo forse ripensare un po' anche a cosa significa potenziale, nel senso che troppe volte si parla di atleti bravissimi, fortissimi, straordinari, però in potenza. E quindi ogni tanto avere anche il coraggio di guardare cosa sta veramente accadendo. È vero che ci sono mille opportunità diverse. Cassano è stato nella Sampdoria un grande giocatore, forse perché poteva girare intorno a lui giravano un sacco di altre persone, però quando hai una nazionale, una squadra molto forte, devi pensarci un attimo prima qual è anche l'affidabilità della persona alla quale stai dando le redini di una squadra, perché poi il team, ricordiamolo, anche nel calcio non è trascurabile. Più volte se ne è parlato, i pochi successi di squadre italiane a livello europeo è che in Italia a volte basta avere un grande campione in squadra che ti permette di vincere lo scudetto, vai in Champions League e la cosa non funziona più. Sì, Mario Scorsese ha scritto un sacco di volte. Esattamente tra così. Mario, grazie, buon lavoro. Grazie a voi, buona domenica. Grazie a Mario Sconcerti. Andrea, invece, la tua su questo discorso degli oriundi, no? Ieri Prandelli ha detto, lui è sempre stato molto deciso su questo punto, tutti quelli che possono essere chiamati, perché i documenti non li hanno rubati in giro, ma li hanno presi dopo una trafila più o meno lunga, tutti quelli eleggibili io li chiamo, se mi servono non li chiamo perché sono stranieri e perché voglio fare un po' di cinema, di folklore o di costume, li chiamo perché mi servono, perché i giocatori sono questi. E ieri Prandelli ha detto, Thiago Motta tra l'altro l'altro giorno ha risolto la partita, e Prandelli ha detto non è la mia Thiago Motta non è la mia vittoria, gli oriundi non sono mai stati un problema per me ma una chance, basta guardare i nostri vivai, il 60% dei bambini sono di origine o nascita straniera, è il futuro semplicemente, dice Prandelli. E adesso? Non è un qualcosa che si realizza, e adesso è difficile capire che cos'è la cittadinanza di un unico paese, ci si distingue, i confini sono molto più sfumati rispetto al passato, ci sono delle regole che vanno rispettate, credo semplicemente occorra avere la buona attenzione ad evitare di considerare una vittoria o la chiamata degli oriundi, perché sono comodi, o comunque non chiamarli in virtù di chissà quale appartenenza ad un paese. Quindi non so, tutti quelli, parlo della pallavolo, ci sono una lunghissima serie di atleti italianissimi che sono figli di atleti stranieri, che sono nati nei loro paesi, sono cresciuti e vissuti in Italia, sono italiani più di noi, lì neanche li chiamerei oriundi, anche se di fatto possono esserlo. Poi ci sono altre situazioni in cui invece si va un po' a cercare il limite del regolamento per poter rinforzare il livello della squadra grazie anche ad atleti che hanno dei valori piuttosto alti, però questi sono, come dire, la fragilità di un tema che va affrontato con molta semplicità come fa Prandelli, ma che merita un po' di attenzione. Davide da Bologna, poi ci fermiamo un attimo. Buongiorno. Sì, buongiorno a tutti. Io volevo ovviamente rinverdire la classica e tradizionale polemica degli esclusi. Io chiamo da Bologna e se ne parla sempre molto poco, ma la squadra della mia città quest'anno sta facendo un campionato assolutamente stratosferico, certo. E ha almeno un paio di giocatori che non vengono veramente assolutamente calcolati dal CT, e sono due giocatori molto giovani che Bologna, uno l'ha ritirato su dal nulla, che è Rubin, un terzino sinistro di grandissima qualità, almeno nel Bologna ha fatto cose ottime, e un altro è un centrocampista che onestamente potrebbe benissimo concorrere con un Aquilani, e direi che Aquilani insomma ha già parecchio lavorato a livello calcistico, parlo di Della Rocca. Sono due persone, due ragazzi che si stanno applicando davvero bene anche a livello tattico. Della Rocca ha modificato il suo ruolo più volte, no? Malesani l'ha spostato più volte sulla linea del centrocampo. E qui si è sempre molto stupiti che il Bologna sia solo Viviano, no? Poi Viviano è dell'Inter, quindi alla fine viene chiamato Viviano poi per essere, per stare su quella panchina molto lunga che è quella della Nazionale. E quindi nulla, volevo, visto che stavate parlando di poca possibilità di scelta, no? Sconcerti parlava di questo, mi sembra che si osservi poco una squadra che ha qua, con i tre punti tolti per via di questioni. Guardi Davide, però no, ma io credo che non credo che passi inosservata, credo che ogni giocatore venga passato a setaccio, credo che il lavoro di Prandelli sia molto serio anche dal punto di vista del reclutamento. Poi è chiaro che noi siamo lì, ogni tifoso vorrebbe i suoi in nazionale, poi c'è anche poca pazienza, nel senso, dopo tre partite cominciamo a dire, non Davide o non i tifosi ma anche i commentatori, anche noi, dopo tre partite, però quello lì in nazionale varrebbe come? Tre partite, sì, infatti credo si tratti di stabilità, anche di equilibri, cioè ci vuole, come diceva Prandelli in questi giorni riferito a Balotelli per questioni un po' diverse, oggi ne ha fatto un'altra, poi te la dico, Mi aspetto un po' di continuità da Balotelli, perché adesso vorrei vedere questo nel chiamare quindi ragazzi giovani che fanno delle buone stagioni, delle buone partite. Io credo che sia importante anche che confermino un tipo di rendimento per un po' di tempo, e che potrebbe portare a qualche equivoco, perché magari un allenatore insiste su qualcuno che ha più esperienza, che non gioca benissimo, ma una squadra deve partire secondo me da una base un po' più solida, può permettersi di inserire giocatori che arrivano se l'ambiente in generale è comunque pronto ad accogliere anche chi non ha l'esperienza, se no è come se facessi un dispiacere o mettessi a repentaglio anche la carriera di chi ha poca esperienza e molto talento. Ci fermiamo un attimo, poi continuiamo. 800 24 00 24, numero verde. Andrea, poi ti dico cosa ha fatto Balotelli oggi, cioè l'ultima che ha fatto, ne ha fatto un'altra, e ti voglio chiedere anche della storia dell'Under 21. Sei Under 21 in Serie B di calcio, la pallavolo lo ha già fatto in Club Italia. Esatto, il Club Italia, che secondo me è una grandissima idea, poi ti chiedo anche come funziona, come ha funzionato secondo te. Dopo. Non hai ancora portato titoli e fondi in Fineco Bank? Forse è ora. Trasferiscili subito e hai fino a 2.000 euro di bonus. Scadenza promozione 36-2011. Trasferimento minimo 10.000 euro in titoli e fondi di investimento. Dettagli e fogli informativi su fineco.it. Chiama l'800-101-101 o vai su fineco.it. Fineco, la banca con il 95% di clienti soddisfatti. Nuovo design. Fari Bixeno ILS con luci diurne a LED. Cambio 7 G-Tronic Plus con Eco Start and Stop. Nuova plancia con strumentazione a colori e l'attention assist che state ascoltando. Finalmente una tecnologia che risveglia l'attenzione. Classe C nuova generazione, tutta un'altra classe. Il 26 e il 27 marzo scopri la gamma a partire da 31.900 euro. Offerta soggetta a disponibilità limitata nelle concessionarie aderenti. Info mercedes-benz.it. Ah, signor Platone, posso offrirle un caffè? Volentieri, professor Severino. Abbiamo così tante cose da dirci. Il Sole 24 Ore presenta Il Caffè Filosofico, un'opera imperdibile dove i grandi filosofi di oggi raccontano quelli di ieri. Il Caffè Filosofico, un'interessante conversazione tra passato e presente. In edicola il primo DVD. Tempo in diretta. Previsioni a cura del Centro Epson Meteo. Una buona serata agli ascoltatori di Radio 24. Domani la perturbazione in transito sull'Italia porterà una nuvolosità sparsa in tutte le regioni, con piogge che dal nord tenderanno a estendersi al centro in Sardegna e col passare delle ore anche a buona parte del sud, dove resisterà nel frattempo ancora qualche schiarita. Le temperature saranno stazionarie in leggero calo, con valori pomeridiani tutto sommato nella norma, compresi tra 14 e 18 gradi, ma con punte di 20-22 gradi in Sicilia. Per maggiori dettagli consultate meteo.it. E con questo è tutto. Le domande del risparmio. Fatele all'828 1212. Radio 24 e Assogestioni vi daranno tutte le risposte da lunedì a venerdì alle 12.50. E dal 6 all'8 aprile vi invitano a partecipare al Salone della Gestione del Risparmio. In collaborazione con Salone del Risparmio a Milano dal 6 aprile. Iscriviti gratis. SaloneDelRisparmio.it. Sì? Quel progetto riservato? Era sul portatile che mi hanno rubato. Non sottovalutare la sicurezza dei tuoi dati. Cambia portatile. Con Fujitsu e Intel massima sicurezza, anche in movimento. Il notebook Lifebook Fujitsu protegge sempre i tuoi dati e in caso di furto o smarrimento puoi rintracciarlo e cancellarli da remoto. Lifebook Fujitsu, con processore Intel Core i5. Nuovi Lifebook Fujitsu. 800-466-820. O cambiaportatile.it. 2 anni gratuiti di garanzia e di assicurazione furto e incendio su tutto l'usato aziendale Renault. Anche in radio il nostro usato funziona benissimo. Renault Selection, l'usato garantito fino al 30 aprile in tutte le concessionarie aderenti all'iniziativa. Io scrivo per trasmettere emozioni, idee, storie. Io scrivo. Il corso del Corriere della Sera per migliorare e perfezionare la tua scrittura. Da domani in edicola il primo volume con la videointervista di Roberto Saviano. Scrivere bene. Adesso puoi con Io Scrivo. Dai con quella gru, veloce! Tira giù! Così! Attenzione con quell'impalcatura! E spostiamoli quei tubi! Se investi con le nuove obbligazioni Dexia Credit Serie al 4,85%, i tuoi soldi non costruiscono solo il tuo futuro, ma anche quello dell'Italia. E i tuoi risparmi potranno finanziare infrastrutture e opere pubbliche sostenendo lo sviluppo del paese. Chiedile alla tua banca o informati su www.dexia-credit.it. Prima dell'adesione, leggere il prospetto. A tempo di sport. Torniamo insieme, mio carissimo compagno di viaggio in questa domenica di sport, Andrea Zorzi, così abbiamo, l'ho detto prima, più modo e tempo per chiacchierare insieme su tutte le cose che ci piacciono e tra poco cominceremo a farlo con più profondità. C'è chi scrive: Marco, tutte panzane, quelle di sconcerti, la Spagna ha vinto i mondiali senza assimilati. Sì, però caro Marco, la Spagna ha vinto il titolo europeo prima dei mondiali avendo al centro della sua squadra, come perno della sua squadra, un brasiliano naturalizzato, si chiamava Marco Senna, e ringrazio Cristiano Bartelloni che me l'ha suggerito in cuffia perché non mi ricordavo il nome, però era brasiliano ed è stato il fulcro di quella Spagna. E comunque vale di più un titolo vinto senza assimilati? Ah, se non so io. Evidentemente dal tono del messaggio si direbbe di sì. Nel senso che è vero che un titolo eventualmente vinto, sì, saccheggiando oriundi veri o presunti tali, secondo me va ripensato. Sì. Ma se si parla di oriundi assolutamente nella norma, mi pare che il valore sia esattamente lo stesso. Andrea, assolutamente. Vuoi prima quella su Balotelli o mi dici prima quella sull'Under 21? No, fai te. Balotelli sono rimasto... Dove sei rimasto? Mi sa inizio di marzo, mi sa che ero rimasto. Una rissa. Allora, te ne sei perse così. Oggi, allora, l'ultima bravata viene riportata dal domenicale People, che ha la credibilità che ha, però scrivono che il giocatore sarebbe stato sorpreso mentre da una finestra del primo piano del centro di allenamento del City a Carrington tirava freccette contro alcuni ragazzi delle giovanili. Non ci sono state persone ferite o danneggiate, ma alla richiesta di spiegazione da parte del club, Balotelli avrebbe risposto, sempre secondo People, di averlo fatto perché si stava annoiando. Che è una buona scusa, proprio tra le migliori che possa trovare. Assolutamente. No, poi questo non lo dice la settimana People, ma sono parole come pietre pronunciate a Sky Sports da Redknapp, R. Redknapp, allenatore del Tottenham, che lo ha definito spaventoso e arrogante. Lo ha definito spaventoso e arrogante dicendo... È sempre triste, dovrebbe imparare a sorridere. Sembra che odi ogni minuto di quello che fa. Non ho mai visto nessuno comportarsi così, è spaventoso. Non so se qualcuno riuscirà davvero a cambiare Balotelli, lui già aveva problemi nell'Inter. Di certo è triste vedere un ragazzo che guadagna tutti quei soldi e che fa un lavoro che dovrebbe adorare, comportarsi come se stesse facendo un lavoro di routine. Sì, la domanda che rimane è sempre la stessa: quale sia eventualmente il modo migliore per essere d'aiuto in questa situazione? Perché a ripetere, come giusto che sia, ci dispiace vedere un talento che si sta sprecando, ci dispiace vedere che non cresce, non l'ha fatto nell'Inter, non l'ha fatto in Inghilterra, non l'ha fatto da nessuna parte, ha avuto un sacco di persone che in totale buona fede lo hanno aiutato e ciò non sta accadendo. Questo mi stupisce perché tanti tentativi non riusciti. A questo punto la domanda è... Però la sensazione che non si diverte effettivamente c'è, la sensazione che non gli piaccia quello che fa effettivamente c'è. Questo è vero grande dramma anche, perché per davvero a rivedere la sua situazione, lui stesso, se si rivedesse con occhi diversi, si comporterebbe diversamente, è che non ci riesce. E come aiutarlo mi pare sia un'operazione piuttosto complessa. Parliamo di Prandelli, si parlava di Prandelli, anche lui ha detto va bene, io non ho la bacchetta magica, sono qui, certo che mi aspetto da lui qualche conferma, anche perché le conferme in negativo arrivano con una certa costanza. Quelle in positivo quest'anno scarseggiano, complici infortuni, però sta giocando una pessima stagione tra l'altro nel City. Andrea, l'Under 21, questo discorso del Club Italia che a me piace moltissimo, adesso non voglio riaprire Cataratte del Cielo, però l'avrei visto volentieri nel rugby, nella Celtic League, no? Un Club Italia che partecipa a questo torneo e che così facendo fa crescere la nazionale anche in tempi non apocalittici, ma in tempi piuttosto accelerati. Nella pallavolo femminile è stato... La scelta geniale, quello che ha permesso poi di vincere il mondiale nel 2002 e di costruire una squadra di altissimo livello. Attenzione, perché quella non era una squadra che giocava, ma erano delle ragazze giovanissime, scelte con l'aiuto di tutte le società, che lavoravano a Ravenna tutti i giorni. Al mattino andavano a scuola, pomeriggio lavoravano con intensità e potevano fare un programma a lunga scadenza. Aggiungo un aspetto perché a me ha colpito moltissimo: nella pallavolo femminile le ragazze alte hanno dei tempi di miglioramento che sono più lenti rispetto alle altre ragazze, ma se vuoi pensare di provare a vincere un mondiale devi sapere che devi aspettare le ragazze un po' alte. Una società che gioca per vincere il campionato farà giocare la ragazza più piccolina ma più abile, più formata, e quella grande rimane in panchina. Quindi c'era una necessità di non disperdere un tesoro straordinario. Con le donne ha funzionato perfettamente. Poi hanno fatto un esperimento con i maschi, una via intermedia però, in cui non è che ci si allena e basta, si gioca anche in A2, c'è il Club Italia che lavora e si allena a Roma, ha perso tutte le partite. Lì il dubbio è se un campionato di sole sconfitte possa veramente essere utile a dei ragazzi. Forse potrebbe essere il caso di valutare quale sia la categoria nella quale inserire la formazione, perché troppe sconfitte... Però che ci sia un riscontro agonistico è necessario, cioè non basta il lavoro collegiale, cioè devi avere la possibilità di giocare partite vere. Io credo che questo sia un aspetto fondamentale, va valutato la modalità. Qualche volta occorre lasciare un po' di tempo al lavoro, poi riportare i miglioramenti in ambito competitivo, e questo è un passaggio fondamentale. Ogni tanto però non puoi avere solo l'idea della competizione, perché se no ti perdi dei pezzi per strada. Quindi la grande abilità sta, per chi ha questo compito, nel valutare quale sia la misura migliore per passare da questi due ambienti, quello competitivo e quello didattico. Questa è una vera grande scommessa. Sì, però nel caso nazionale Under 21 comunque parliamo di giocatori già formati che giocano già spesso titolari in Serie A. Under 21 secondo me è anche un po' tanto, perché a 21 anni, cioè... 21 anni un ragazzo non è fatto finito, gli manca esperienza. Magari quasi provare a pensare quasi a una selezione ancora un po' più giovane, sì, da capire quale sia il livello in cui può confrontarsi, sì, giocando, sì, veramente, sì, sì, perché l'Under 21 è tanto, dici? Secondo me è un po' vecchietto. Qui sono già giocatori professionisti, cioè nel senso giocano insieme e il traghetto per la nazionale maggiore è subito pronto, capito? Ma però probabilmente hai ragione, bisogna partire un po' prima, però a quel punto la Serie B sarebbe tanto, sono ragionamenti da fare. Fatto sta che come concetto a me piace moltissimo questo del Club Italia, perché mi sembra la strada più logica per lavorare con loro e avere dei miglioramenti concreti, al di là di tante chiacchiere. Stefano, provincia di Imperia, poi Rossano, provincia di Venezia. Buongiorno Stefano. Pronto, buongiorno. Innanzitutto grazie per la possibilità di parlare. Grazie a lei. Ascolti, io volevo chiedere una cosa a lei, perché la reputo un giornalista molto serio e equilibrato, che ce ne sono, diciamo, non tantissimi, ecco. Volevo sapere da lei cosa ne pensa dell'atteggiamento avuto dalla società Milan nei confronti del ricorso e poi insomma della sentenza del caso Ibrahimovic, perché a me mi è sembrato di vedere quasi che volessero che gli desse un premio a Ibrahimovic, cioè diciamo ha tirato una manata, regaliamogli che ne so 3 gol di bonus, perché si sono anche lamentati dopo che gli hanno ridotto una giornata di squalifica. Volevo sapere da lei cosa ne pensava. Cosa ne pensavo? Mi sembra che ci stiamo per tuffare in una settimana molto poco promettente dal punto di vista climatico. Mi risulta che all'Inter, anzi non è che mi risulta, lo sappiamo tutti, all'Inter sono molto parecchio nervosi per il parallelo tra il fallo di mano di Ibrahimovic, che è stato assimilato al presunto fallo di mano di Pazzini, che io non ho ancora visto. Altri, come ad esempio il Napoli, sono alla ricerca di un'equità di trattamento oppure di una disuguaglianza di trattamento cui aggrapparsi, eccetera eccetera eccetera. C'è una bella amichevole della nazionale che potrebbe diventare motivo di litigi furenti per l'utilizzo o meno di atleti di entrambe le squadre. Il Prandelli ha già detto che non li usa, quelli del Milan e dell'Inter non li usa. Ti rendi conto, nel senso che capisco l'importanza di un derby che decide un campionato, però l'idea è, siamo arrivati al punto in cui l'attore della nazionale dice non voglio rotture di scatole, per carità, me li tengo qui, non ve li rimando perché mi servono, li faccio allenamento, ci chiacchiero e li conosco e facciamo gruppo, però tranquilli, non ve li faccio. È sintomatico neanche del clima. Sì, su questa storia di Ibrahimovic, corsi, ricorsi, balletto. Non lo so, insomma diventa un discorso difficile trovare l'equità. Poi lo sputo di Lavezzi vale più o meno della manata di Ibrahimovic, mi sembrano anche cose di su Striscia, mi devi aiutare, non ricordo il nome del giocatore che ha subito entrambi i falli, quello di Chivo Ferrari, che è un cazzottone da Chivo. Ma cosa gli Rossi dici? Scusa, non Ferrari, Rossi, Marco Rossi, ma cazzottone da Chivo e lo sberlotto sul fianco dei proprio Ibrahimovic. Tu non c'entri nulla, gli hanno chiesto perché com'è che sei sempre in mezzo a queste storie. C'è stata anche una in settimana, l'altro ieri, Fedele Confalonieri è intervenuto alla Zanzara, e io non sono Gruciani, ma è intervenuto alla Zanzara, ha parlato tra le altre cose, che poi vi faccio sentire, anche di Ibrahimovic, vi faccio sentire Confalonieri su Ibrahimovic, poi traffico, Rossano da Venezia e poi parliamo di altre cose. Confalonieri. Questo significa che comunque il derby lo salta. Cercheremo di vincerlo anche senza. Ma meritava queste 3 giornate? No, secondo me non le meritava 3 giornate, però meritava la sanzione. E quindi 2 siamo tutti d'accordo. Boh. Sì, ma lì sai. traffico. Strade in diretta. In apertura una segnalazione dalla Sicilia, sulla 20 Messina-Palermo è stato chiuso per un incidente il tratto compreso tra Patti e Brolo in direzione Palermo, mentre sulla 19 Palermo-Catania si rallenta per lavori tra Bagheria e Palermo, sempre in direzione del capoluogo siciliano. In Liguria code per lavori sulla 10 dei Fiori tra gli svincoli d'Imperia in direzione Genova. Sulla 15 della Cisa altre code per lavori tra la 12 Genova-Rosignano e Aulla in carreggiata nord verso Parma. In Piemonte si rallenta per lavori su raccordo Ivrea-Santhià in direzione della 4 Torino-Milano, mentre sulla diramazione per Pinerolo il traffico è rallentato per un incidente tra Volvera e Candiolo verso Torino. Sulla Firenze e Pisa-Livorno code per un cantiere tra Ponte d'Era Ovest e Montopoli Valdarno verso Firenze. Mentre il traffico è intenso in ingresso a Roma, rallentamenti sulle 2 diramazioni dell'autostrada del Sole e sulla 24 Roma-L'Aquila-Teramo. Per il momento è tutto, il prossimo aggiornamento tra circa mezz'ora. Promo 24. Impresa semplice di Telecom Italia, non solo telefonia, ma anche soluzioni informatiche per lavorare e comunicare in modo conveniente e innovativo. Con Impresa semplice a partire da 10 euro al mese più IVA per 24 mesi si può scegliere tra gli smartphone di ultima generazione con 2 GB di navigazione e assicurazione casco incluse. E ogni 2 anni si può avere un modello nuovo, senza costi aggiuntivi. Impresa semplice, il meglio di Team e Telecom Italia per il business. Altre info sull'offerta, condizioni di recesso e costi su www.impresasemplice.it o chiamando il 191. A tempo di sport. No, meno male che c'era il traffico di Andrea Zozzi, stavamo parlando di sputi, sputazzi, pugni, preferisco carezze. Ma poi andiamo in disco, poi arrivano i tifosi del Napoli, arrivano tutti, no? 8-0-0-24-0-0-24, siamo qua fino alle 7, tanto ormai. Io preferisco lo sputo, il pugno allo sputo. Lo sputo mi sembra una cosa, lo sputo mi sembra una roba estremamente vigliacca. Il pugno è una cosa di aggressione. Si parlava di Chivu, Ibrahimovic, questo Rossi, poi Lavezzi e poi quell'altro gli ha sputato. E siamo sempre lì, no? Immagini la riunione di chi deve decidere. Dunque, quante sonnate gli diamo? Perché questo qui gli ha dato effettivamente un pugno. Questo è forte, questo pugno qui. Quell'altro un po' meno forte, però. E devi decidere quanto vale. Chiamano Rossi e gli dico, anche come consulente stabile, e dico: ma senti, quanto male t'ha fatto? Poi se la prendono sul serio, però. Gli ascoltatori, noi magari ci ridiamo un po' sopra, loro se la pigliano a morte. Rossano, provincia di Venezia, buongiorno. Buongiorno, ecco. E prima l'ascoltatore ha fatto i complimenti al conduttore, io volevo fare i complimenti invece ad Andrea Zozzi, al nostro Andrea, che è stato un grandissimo atleta, ma è una grandissima persona. Spero che sia utilizzato bene dal CONI per un ruolo sportivo, insomma. E niente, speriamo. Volevo dare anche un'informazione, Andrea, che il derby Venezia-Treviso è finito 1-1 con Sant'Elena pieno di gente. Hai capito? Mille grazie. E niente, la domanda che volevo farti, Andrea, era qui, Andrea o anche al conduttore, questa: il riferimento che si parlava prima degli oriundi da inserire nelle varie nazionali italiane, volevo un tuo commento su quello che è accaduto, e spero non accada più, sulla nazionale di calcio a 5 ai mondiali in Brasile. La partita Brasile-Italia, la nazionale italiana schierava praticamente 10 italo-brasiliani, e durante sull'inno italiano sono stati tutti zitti e hanno cantato l'inno brasiliano, questo tra le cose. Io spero che questo eccesso è giusto, come si diceva prima, siamo in una nuova fase, una nuova era dove i confini, le nuove popolazioni si muovono, è giusto così, quindi nuovi italiani, ma questo mi sembra un eccesso un po' troppo, è stata una cosa un po' troppo grande, ecco. Non so, un vostro parere. Il calcio a 5 è evidentemente una di quelle discipline in cui l'Italia, non essendo ai primi posti, può attraverso gli oriundi crescere di livello. Se l'obiettivo dell'utilizzo degli oriundi è quello di crescere di livello dimenticando quale sia la relazione del giocatore con l'Italia, mi sembra essere un obiettivo da non consigliare. Questo però ha a che fare solo con alcune discipline dove davvero ci sono grandi differenze. Sì. Si parlava dell'hockey su ghiaccio, Si parlava di altre discipline dove ci sono alcuni atleti, alcune nazioni che sono fortissimi, e quindi anche uno che non ha spazio nella sua nazionale perché non è abbastanza forte, potrebbe essere un grandissimo vantaggio, un grande valore aggiunto per un'altra nazionale. Su questo io, come dire, utilizzerei tutte le cautele di un aspetto che non va dimenticato. Certo, poi altro discorso da fare è quello dell'inno nazionale, la cui visibilità è secondo me molto sopravvalutata. C'è questa storia e canta e non canta, e come canta e quanto sbaglia le parole, non sbaglia le parole. Mi sembrano discorsi molto, molto pelosi. Sinceramente io preferivo quando, mi sembra che voi non lo cantaste, no? Non lo cantavate voi l'inno nazionale, o no? Io preferisco una composta concentrazione, ecco, diciamola così. Non mi importa nulla che lo cantino o no. Lo si canticchiava sul podio, lì molto felice. Okay, ho capito, bene, ma perfetto, ma lì ci sta, secondo me ci sta molto di più, no? Ma prima della partita, guarda, mi importa veramente pochino. Anche lì, ciò che conta è un po' l'intenzione. Se tu ritieni che cantando l'inno a squarciagola è come se confermassi il tuo essere italiano... Sì. Mi pare che finiamo però in labirinto. Esatto, però secondo me lo canti se ne hai voglia, non perché ti inquadra la televisione, e se non lo canti ti fanno il mazzo. Questo è il senso del discorso. Voglio farvi sentire la scheda di Cristiano Bartoloni al volo, perché abbiamo già in linea l'ospite con il quale parleremo di questi argomenti, nostro amico autore di un bellissimo libro. Scheda. I giocatori dell'Arsenal sono delle star, ma quando le cose non vanno come avevano previsto, tendono a diventare un po' nervosi. Parola di Gordon Davis, attaccante del Wrexham, squadra dilettante gallese, dopo aver battuto per 2-1 l'Arsenal negli ottavi di finale dell'FA Cup 1992. La storia dello sport è costellata da imprese del genere. Vittorie impossibili, Davide che sconfigge Golia. È notizia di pochi giorni fa. Sam Woolley-Cohen, fantino dilettante, ha sbaragliato la concorrenza vincendo la Cheltenham Gold Cup, la più importante corsa ippica a ostacoli della Gran Bretagna. E come non ricordare Michael Chang a Roland Garros nel 1989? L'allora 17enne tennista americano batté il numero uno al mondo Ivan Lendl, nonostante i crampi. Il giovane sfoderò la pazienza dei propri avi cinesi, adottando ingegnose tattiche di disturbo, che portarono alla sconfitta il più forte cecoslovacco. Chang vinse poi quel Roland Garros. Altro sportivo baciato dalla fortuna è Stephen Bradbury, australiano, atleta di pattinaggio su ghiaccio. Alle Olimpiadi di Salt Lake City nel 2002 esserci era già un successo. Ma Steve superò tutti i turni grazie a circostanze fortunate e in finale si ritrovò con la medaglia d'oro al collo, favorito da una caduta collettiva all'ultima curva. La faccia incredula di Bradbury fece il giro del mondo. Ma in queste occasioni è inutile farsi tante domande, perché, come dice un detto africano, puoi svegliarti anche molto presto all'alba, ma il tuo destino si è svegliato mezz'ora prima di te. Sono meravigliose storie di underdog quelle che ci regala oggi Cristiano Bartelloni. Io Chang me lo ricorderò finché campo. Anch'io. È che a me capita adesso, lo dico con un po' di presunzione, di stare spesso dalla parte di quelli favoriti che perdono. Mi metto più nei panni di Lendl o di quelli del Liverpool che di Chang. Quando guardo la TV, tipo sempre quel più debole. È che in vita mia ho perso partite partendo favorito. Allora, l'importante è perdere. Storie di chi ha vinto senza arrivare primo, lo ha scritto il nostro amico Nicola Roggero, giusto? Sì, ciao Nicola. Ciao Andrea, buongiorno a tutti, buongiorno agli ascoltatori. Beh, raccontaci anche te la tua opinione su queste vittorie, innanzitutto non preventivate. Ma sono meravigliose, ne avete citate già un po'. E qual è la tua del cuore, Nick? Ma paradossalmente è quella che andò contro una squadra per cui simpatizzo, che è il Manchester United. Io allora vivevo in provincia di Varese negli anni 70 quando ero bambino, quindi si poteva prendere la TV della Svizzera italiana, che mi ha introdotto al calcio inglese attraverso le mitiche telecronache di Giuseppe Albertini, che è stato a mio parere il più grande telecronista della storia del calcio, e che raccontava la finale della Coppa d'Inghilterra. E allora ovviamente per gli appassionati di calcio internazionale era una sorta di reliquia poter vedere almeno 90 minuti di calcio inglese. E nel 76 c'era la finale tra il Manchester United, ovviamente non favorito, strafavorito, contro il Southampton, che era una squadra di seconda divisione, l'equivalente della nostra Serie B inglese, e naturalmente vinse il Southampton dopo che il Manchester aveva preso due pali, aveva attaccato tutta la partita, segnò un certo Bob Stokoe a 7 minuti dalla fine. Io, anziché essere deluso perché aveva perso la squadra per cui simpatizzavo, da quel momento sono diventato uno dei più accesi fan di questi splendidi sfavoriti che riuscirono a creare una delle più clamorose sorprese nella storia di questo torneo che ha 140 anni di vita. Però insomma ce ne mille altre, e ha ragione Andrea, bisogna sempre stare dalla parte dei favoriti, se non altro perché c'è un vantaggio, non c'è niente da perdere, non si rimane mai delusi. A proposito, la mia invece vittoria favorita è quella di Chang. Ero un tifoso di Lendl, anche perché nell'81, prima trasferta che feci a Praga, c'erano i campi di Terra Rossa in cui si allenava Ivan Lendl. Non l'ho visto, ma però me lo immaginavo, ed ero un suo tifoso, anche perché era un talento però molto quadrato, e tifavo per lui disperatamente. E Chang andava vicino alla riga, gli faceva gli scherzetti, una battuta da sotto, mi fece impazzire. Nick, chi ha vinto senza arrivare primo? Raccontacene una. Ma guarda, posso dire che proprio la persona che in questo momento dall'altra parte del microfono, cioè Andrea Zorzi, è uno di quelli che ha vinto anche senza arrivare primo, nel caso ovviamente solo delle difese, perché ovviamente l'albo d'oro di Andrea non è ricco, è straricco praticamente. Il nome di quell'Italia c'è dappertutto, dai mondiali agli europei. Manca soltanto l'Olimpiade, però a mio parere quella squadra vinse per una ragione, che quella formazione formidabile con Velasco in panchina, con Andrea Zorzi, con Lorenzo Bernardi, giocatore del secolo addirittura della pallavolo, con Gianni, con Bracci, insomma dei protagonisti formidabili, perse praticamente per una palla, perché se non sbaglio la partita finì 17-15 al tie break, quindi bastava invertire una palla, avrebbe vinto l'Italia e non l'Olanda. Bene, è la prima e credo unica volta nella storia dello sport italiano dove io non ho sentito un alibi, accusare la sfortuna, accusare qualche complotto, accusare qualcosa, niente. Hanno incassato la sconfitta pur essendo favoriti e pur avendo provato una delusione incredibile con la serenità del grande uomo di sport. Ecco, credo che se ci sia un secondo posto che vale come un primo, io direi che è proprio quello. Nel libro di Nicola Roggero ce ne sono alcuni sono storici e sono molto interessanti, perché come spesso accade lo sport è un'ottima opportunità per rileggere anche la storia dei vari paesi e della nostra vita in modo diverso. Alcune storie veramente bellissime, alcune sono sconosciute, una delle quali, che non devi anticipare Nicola, riguarda le Olimpiadi di Città del Messico. C'è una storia molto interessante sul guanto nero, conosciutissimo, vi ricordate? Come Black no? Power. Ne parleremo con Cristiano Bartelloni, perché è una storia che nei prossimi giorni vi ripresenterò. Senti, però io adesso ho un cruccio. Vai. Ho un cruccio che è questo. Tra 26 secondi Valeria Bernardi fa partire la sigletta e mi dice chiudi perché sennò ti spengo. Nicola, rimani con noi un po'. Cioè, Nicola, volentieri. Possiamo risentirci dopo il giornale radio? No, perché così mi è sembrata una roba troppo svelta. Volentierissimo. Ok, allora dopo il giornale radio torniamo a parlare con Nicola Roggero. Andrea Zorzi resta qui con me, voi potete intervenire, chiamare, scrivere, fare quello che volete. Chiamate all'800240024, messaggi 349-238-6666, ancora un'ora insieme dopo. A tempo di sport. Torniamo insieme, mentre io e Andrea Zorzi e molti ascoltatori, mi fa grande piacere, via SMS hanno inviato ricordi e storie di Underdog. In queste settimane stiamo sfrucugliando la memoria di molti, dal momento sportivo che vi ha segnati alla storia degli impianti e dei luoghi del cuore dello sport, che poi parliamo anche, perché prima... Ti ricordi, parlavamo di Formula 1, adesso vanno i circuiti nuovi, quelli nuovi o nuovissimi, magari nel deserto, magari bellissimi dal punto di vista architettonico, ma senza niente dentro, dal punto di vista storico. Guarda, in questi giorni, lavorando un po' per Tracce di Sport, questo viaggio alla ricerca dei luoghi di cui tu parlavi, ho letto qualcosa relativamente allo studio che ha fatto un geografo nel valutare in che modo i luoghi dello sport, col passare del tempo nei paesi sviluppati, siano diventati dei luoghi prima aperti e poi sempre più chiusi, fino ad arrivare ad avere i tornelli con l'ingresso prenotato sei mesi prima, e quindi questo sport che prima era un evento pubblico che potevi guardare è diventato un luogo chiusissimo per mille ragioni, per la sicurezza, così dicono, ma anche per questioni economiche e di altre ragioni. Nicola Roggero è rimasto con noi. Nick, ci sei, vero? Sono qui. Luoghi dello sport per te, quelli che ti fanno battere il cuore, quali sono? Cioè, quando entri in un posto e insomma provi, non ti dico sindrome di Stendhal, però qualcosa dentro. Ma sindrome di Stendhal lo proverei volentieri, perché sono luoghi dove ci resterei. Direttore della sindrome di Stoccolma mi vorrei far rapire. Direi Lettigrund di Zurigo per l'atletica, Wembley per il calcio, Wimbledon ovviamente per il tennis, in questi posti ci sono stato, e non sono stato invece purtroppo sul pavé della Parigi-Roubaix, e questo invece è un posto dove mi piacerebbe da matti esserci. Intanto, perché... sì, dimmi Nick. Sì, no, perché sono i luoghi del ciclismo, veramente hanno qualcosa di trepitoso, di mica, avrei potuto dire l'Alpe d'Huez o il Passo del Pordò, insomma ce ne tanti, però dovendo dire uno direi il pavé della Roubaix. Hai citato Wembley, però insomma, simulacro, il luogo dove sorgeva. Sì, adesso ha un po' meno fascino, il vecchio Ruder ha resistito qualcosa come 77 anni, hanno fatto fatica ad abbatterlo perché c'erano proprio dei pezzi Wembley che non volevano saperne di venire giù. Adesso c'è un nuovo Wembley, a mio parere non è esattamente la stessa cosa, però certo, insomma, più o meno l'impianto rimane quello, insomma, qualcosa si respira ancora. Nicola, una domanda. Io dicevo prima che in questa disfida tra Davide e Golia, io mi sono sentito più Golia ogni tanto che Davide, quindi penso al fatto che in queste occasioni se vinci fai il tuo dovere e quindi non c'è nessun merito, se perdi è un putiferio sono le partite che non vorresti mai giocare. Però la domanda è, da commentatore, poiché viene spontaneo tifare per il più debole, tu ti puoi permettere un po' di libertà in più quando ti capita di avere una partita che evidentemente non è equilibrata? Secondo me sì. Secondo me se tu commenti appunto il Davide contro Golia, insomma, stare dalla parte di Golia e ti piace vincere facile. È giusto, rispettando ovviamente la parte di Golia, perché come dici tu, tu ti sei trovato da quella parte lì e comunque non è un torto essere il più forte, quindi va comunque apprezzata l'abilità, il talento e tutto quanto, però insomma specialmente in certe occasioni tipo le Olimpiadi tifare per Davide a mio parere si può. Tornando al discorso di prima, attenzione, non è il discorso di Italia-Olanda la famosa finale, io continuo purtroppo a far risanguinare il cuore di Andrea, perché quell'Olanda era comunque una squadra strepitosa, l'Italia era un po' meglio, l'Olanda alla fine vinse. Io in questi casi dico che se quell'Italia non ha mai vinto l'Olimpiade, la medaglia d'oro dell'Olimpiade, è un problema dell'Almodoro dell'Olimpiade, problemi suoi se manca l'Italia. L'Italia era talmente forte che fa pietà se non c'è l'Almodoro, ripeto, se peggio per l'Almodoro. Io avevo trovato un sacco di scuse buone per giustificarmi, questa l'aggiungo nella lista. È un problema dell'Almodoro della pallavolo, che noi si è vinta. Noi si è vinta l'Almodoro, parliamo di una squadra che ha vinto tre mondiali consecutivi o qualcosa di simile. simile, ha visto tutti gli europei che c'erano, che gli passavano nei dintorni. Beh, è quel tocco di umanità che ci rende ancora più simpatici. Ecco, appunto, se vincevano anche quello magari diventavano antipatici, insomma, soffrivano di nichemania, c'è la nichefobia e la nichemania, e ecco, in questi casi, perdendo quella, ha dimostrato di essere umani, ecco, giusto così. Senti, tu cosa dicevi del guanto nero nel libro di Nicola? No, che questo ne parliamo la prossima volta, perché nel libro di Nicola... Ah, la prossima volta? Sì, sì. Quindi tieniti pronto. Nel senso che in quel libro di Nicola, L'importante è perdere, che è un titolo già, e dice, oh, com'è sta storia, che io ho fatto fatica, com'è? L'importante è perdere, non è, però è interessante perché dicevo, un bel viaggio in tante storie, di molti sport diversi, in questo Nicola devo dire è particolarmente bravo perché si nota che ha quasi una maggior passione, quasi maggior trasporto per altri sport che non siano solo il calcio, anche se poi lavora principalmente per il calcio, e una delle storie all'interno di questo libro riguarda quella scelta che fecero i due campioni di colore di Black Power nella premiazione famosissima, più un'icona. Certo. Esatto. C'è dietro un aneddoto piuttosto interessante. Ma lo raccontiamo un'altra volta. E lì facciamo una scheda con... Lì facciamo una scheda e richiamiamo Nicola. Nicola, intanto mi sta arrivando materiale per il prossimo libro tuo, quello sugli underdog. Ad esempio, ascoltatori bravissimi che trovano degli episodi magari anche persi nella nostra memoria. Steven Bradbury, un mito e la sua storia è quasi una favola. Pochi anni prima della vittoria ha rischiato la paralisi di un incidente di gara, scrive un ascoltatore. Un altro, una vittoria che pochi ricordano, il mondiale di box conquistato dall'italiano Calambai contro il mostro sacro Mike McCallum. Oppure Joe Poling e Martin ad Albertville, l'Atalanta di Mondonico e che giocava in Serie B in Coppa delle Coppe. Oppure lo scudetto del Verona, ma questo è già più gettonato e poi non è la singola impresa ma l'intero campionato. Insomma, storie di underdog. Ma ce ne sono mille, diciamo che poi la vittoria dello sfavorito è bella proprio perché si verifica raramente, se no non sarebbe così bella, se si ricorda le grandi sorprese. Io sono andato addirittura a quella famosa finale di FIFA del 76, Southampton Manchester United, è appunto del 76, quindi di quasi di 35 anni fa, è chiaro che non si verifica tutti i giorni. Ma indipendente da questo, anche soltanto l'underdog che il successo lo sfiora è comunque straordinario, cioè lo sfavorito che arriva ad impegnare il grande favorito che poi pensa ad aver vita facile, in realtà si impone soltanto all'ultimo momento, è comunque bella, ed è bella in generale quello che lascia lo sport. Prima Andrea faceva riferimento al famoso episodio del guanto nero di Messi, Smith e Carlos. Un episodio che nel libro non c'è perché ovviamente è susseguente a quando l'ho scritto, è il fatto che il secondo classificato, che era l'unico bianco sul podio, l'australiano Norman, era l'unico al mondo che conosceva cosa avrebbero fatto Smith e Carlos sul podio. Non solo, i tre svilupparono una straordinaria amicizia anche dopo, e quando qualche anno fa Norman è mancato per un infarto, Smith e Carlos sono partiti dagli Stati Uniti, sono andati in Australia per portare a spalla la bara di Greg Norman, quello che di Norman, che era quel loro grande amico casuale di una sera, per un'amicizia che poi si è sviluppata nel tempo. Ecco, questo è un altro grande messaggio che lascia lo sport, il fatto che a distanza di anni non c'è più l'avversario, c'è soltanto un amico. Una volta ho intervistato quello che è considerato il più grande rugbyista di ogni tempo, il gallese Gareth Edwards, il capitano emiliano di Mischia del più grande Galles di ogni tempo, quello degli anni 70, e quando io gli ho chiesto ma cosa gli ha lasciato lo sport, qual è il successo che ricorda di più, qual è la cosa che ha lasciato più soddisfazione, lui, anziché parlare di un trionfo, mi ha detto: lo sport è bello perché nel momento in cui vado in giro per il mondo ho sempre un amico disposto ad aprire la sua porta. Quindi per amico ovviamente lui intendeva, in quel momento lì era un avversario perché parlava del mondo, però evidentemente era quello la cosa principale che gli aveva lasciato lo sport. Senti Nick, io avrei ancora una domanda da farti, te la faccio dopo il traffico, poi davvero ti libero e ti lascio ai tuoi impegni. Traffico. Strade in diretta. In Piemonte si rallenta per un incidente sulla diramazione per Pinerolo tra Volvera e Candiolo verso Torino, rallentamenti invece per lavori sul raccordo Ivrea-Santhià in direzione della A4 Torino-Milano. Sulla 10 Genova-Ventimiglia ci sono code per lavori tra gli svincoli di Imperia verso Genova, poi proseguendo nella stessa direzione si incontrano altre code per lavori tra Renzano e Genova-Voltri. Sulla 15 della Cisa ci sono code per una cantiere tra la 12 Genova-Livorno e Aulla in direzione di Parma. Code per lavori anche sulla Firenze-Pisa-Livorno tra Pontedera Ovest e Montopoli-Valdarno verso Firenze. In entrata a Roma rallentamenti e code a tratti per il traffico intenso sulle due diramazioni dell'autosole e sulla 24 Roma-L'Aquila-Teramo. Il traffico intenso in questi minuti anche in entrata a Milano sulla 4 e sulla 8 dei Laghi. Ci sono code verso la Svizzera sulla 9, lenate come Chiasso per operazioni in dogana tra Como, Montelimpino e Chiasso. Ed è tutto, il prossimo aggiornamento tra mezz'ora. Promo 24. Essere all'avanguardia significa non smettere mai di evolversi, e la tecnologia di Audi A4 supera ancora se stessa con le nuove versioni Ambiente Plus e Advanced Plus. La versione Ambiente Plus è concepita per il comfort di chi viaggia e offre tra gli altri climatizzatore automatico a tre zone, sensori di parcheggio posteriori, interfaccia Bluetooth, regolatore di velocità e sistema di navigazione con DVD. La versione Advanced Plus è invece progettata per chi ama l'aspetto più sportivo di Audi A4 e contiene fari Xenon Plus con luci a LED, cerchi in lega da 18 pollici, pacchetto S-Line Exterior e Open Sky. I nuovi allestimenti sono disponibili per Audi A4 e A4 Avant con un vantaggio cliente superiore al 50%. Maggiori informazioni su audi.it. A tempo di sport. Però torniamo, tra poco ricominciamo a parlare con gli ascoltatori. Tra poco io e Andrea torneremo, dopo questi racconti bellissimi di Nicola Roggero, a parlare di calci, sputi, morsi, squalifiche, gestacci, freccette sui bambini, tutte queste cose qui, no? Hai voglia? No, non vediamo l'ora. No, prima una domanda che mi premeva a Nicola Roggero. Nick, storia di chi ha vinto senza arrivare primo. Io e Andrea nelle ultime settimane, il sabato pomeriggio senti che già ride, il sabato pomeriggio abbiamo parecchio questionato con col pubblico del rugby, perché va bene chi vince senza arrivare primo, il rugby ha stravinto, però qualche partita bisognerebbe anche vincerla, o comunque qualche progresso bisognerebbe anche farlo nel corso degli anni, dei secoli. Per carità, il titolo è ovviamente volutamente paradossale, ci mancherebbe altro. Quando si va in campo si deve dare il 100% per vincere. Ovviamente il titolo riguarda la correttezza attraverso cui va ottenuto l'obiettivo, ma che l'obiettivo nello sport sia la vittoria, questo è pacifico. Diciamo che l'obiettivo deve essere la vittoria senza che qualcuno aggiunga costi quel che costi, perché se uno aggiunge costi quel che costi c'è già qualcosa che non va, cioè c'è un costo che non può essere pagato. Però sul fatto che bisogna vincere, questo sì. E anche secondo me il problema del rugby, specialmente del rugby italiano, è non vorrei diventarsi il prigioniero della situazione opposta. Bravissimo. Cioè, siccome si dice tutti amici, bello, poco tempo, sono guardati, onore, siamo bravi sempre comunque. Va sempre tutto bene, no, va bene un accidente, cioè anche quest'anno ultime nelle Sei Nazioni, cioè se dopo 11 anni l'Italia è ancora ultima nelle Sei Nazioni, bisogna rivedere qualcosa, se no è troppo facile. Ora, io rugbyista, ecco. L'ha detto Nicola Roggero, mica io. Noi ci riattacchiamo anche a Pino Madaloni, alla domanda, ma chi non vince mai è bravo? No, si impegna, ma se non vince mai non è bravo. Ragazzi, sono lì, hanno detto loro, 800 24 0024, poi voi chiamate, ve la prendete con me. Dimmi. Posso solo aggiungere un'ultimissima cosa in questo senso, a proposito del fatto che comunque nello sport bisogna vincere. Ma certo. Una grande frase del più grande allenatore della storia dello sport, del football americano, che era Vince Lombardi, allenatore dei Green Bay Packers, che dice: ma come, se vincere non conta niente, perché nelle partite si tiene il punteggio? Nicola, grazie, un abbraccio. Grazie a voi, ciao Andrea. Nicola, ciao. Ci risentiamo a Stretto Giro di Posta. Non so quali sono i gusti degli ascoltatori, ma mi sto divertendo molto di più oggi rispetto a le pure bellissime domeniche passate a discutere oggi, di campionato, però, di calcio, con le partite ancora calde. Però oggi possiamo navigare in un universo sportivo, qualunque disciplina va bene, qualunque periodo va bene, di solito la domenica sei un pochettino più costretto a stare, ma volentieri, volentieri. Però capisci che poi mi trovo a parlare di sputi, rigori, mica rigori, contro rigori, squalifiche, morsi e penitenze. E penitenze, dire, fare, baciare, lettera, testamento. Salvatore Davari, buonasera. Buonasera a lei, Genta. Buonasera anche a Zorzi, mitico. Dica. Io chiamavo perché, a proposito di Davide contro Golia, sono stato un Davide all'inizio della mia. Io ho giocato a calcio a livello professionistico, però sono stato un Davide in una partita storica di Coppa Italia, Bari in C e Juventus, la Juventus di Boniek e Platini, per intenderci, e la eliminammo dalla Coppa in una partita andata e ritorno, quindi in un turno importante, erano gli ottavi. E la mia testimonianza non è solo per citare questo e autocitare il Bari, insomma, era perché a distanza di anni, pur avendo fatto 3 promozioni col Bari, i tifosi che hanno vissuto quella partita si ricordano quella partita. la promozione quasi è passata in secondo ordine. E lei infatti di cognome fa, mi scusi, lei di cognome fa? Guastella con la G. Eh sì, me lo ricordo. Me lo ricordo. Ecco, la mia testimonianza era ancora, come dire, a rimarcare quanto il ricordo del singolo avvenimento a volte prevale su magari una stagione. O noi abbiamo fatto quel Bari, fece due promozioni di fila, e c'è gente che si ricorda solo di quella partita, è felice solo per quella partita. Ma vede, noi ne abbiamo parlato tante volte, io e Andrea ne abbiamo parlato tante volte, ci sono dei momenti che segnano, cioè che ci rimangono dentro, no? Può essere la foto del matrimonio, e può essere e non possono essere questo troppi. Momento che, no, devono essere per forza pochi, cioè selezionati, cioè tu devi avere quel momento che di cui ti ricordi quando ti sei svegliato al mattino, che cosa hai mangiato a pranzo, poi sei andato lì e sei rimasto talmente colpito, talmente scioccato positivamente, talmente sconvolto, che quello è stato il momento che ti porti dentro sempre. E dunque io immagino anche che lei, insomma, da protagonista di uno di questi momenti, insomma, aver segnato la vita di così tante persone non deve essere male, eh? Sì, è bello, perché poi io tra l'altro venivo dalla C2 ancora, quindi era proprio agli inizi, e do una, come dire, un mio parere, avendo giocato appunto adesso svelato a calcio, tra lo sputo e il pugno, decisamente il pugno, lo sputo mi avrebbe mandato fuori di testa letteralmente. Quindi insomma, se dobbiamo proprio andare a fare dei paralleli su queste cose, io lo sputo lo trovo la cosa più vigliacca in assoluto. In assoluto, sono d'accordo con lei, in assoluto. Prima ci eravamo anche avventurati nel passaggio successivo, cioè se ti sputano e tu risputi, quindi reagisci, anche lì però ci vorrebbe da dire sì, però mi ha provocato, sì, però ha fatto una cosa terribile. In ogni caso, siccome si innesca a quel punto un meccanismo che non si interrompe mai più, al di là del fatto che chi inizia ha fatto un gesto inaccettabile, però è corretto punire anche la reazione, a prescindere, perché sennò inizia quel meccanismo in cui non la finisci veramente mai più. Allo stesso modo. Certo, per carità, io però lo dico, è stata una mia condotta, per fortuna non l'ho ricevuto, un tentativo, non faccio il nome di chi lo fece nei miei confronti, per fortuna sua non mi beccò. Io avrei fatto l'entrata, come dire, killer. Kamikaze. Esattamente, l'entrata killer, quindi ringrazio il cielo, quella volta lì questo giocatore non mi colpì. Io la ringrazio, Salvatore Guastella. Grazie e complimenti. Piacere nostro. Grazie. Hai capito, Andrea? Riceviamo non solo testimonianze qualificate, ma anche protagonisti di storie dell'underdog che mi stanno riempiendo peraltro il monitor in maniera piacevolissima. Ad essere Davide è Olimpiadi molto divertente. Sì, Ad essere Davide è molto divertente. Golia meno. E Golia tutto da perdere. L'intensità della gioia di Golia è decisamente inferiore all'intensità delle poche vittorie di Davide. Ma possiamo andare avanti così dicendo che per diventare Golia deve essere stato Davide. Per provarci. Per forza. No, tra gli altri messaggi, Underdog, Olimpiadi Invernali Sapporo, Francisco Fernandez Ochoa, primi slalom davanti a Gustav Ronando Töni, Danimarca che rimbalza di qua di là anche la vostra partita, quella con l'Olanda, quella per cui l'Albo d'Oro peggio per lui. Questa è bellissima, Nicola, no, sono diversi di una grande idea, Nicola. Claudio da Roma, buongiorno. Sì, buongiorno. No, io volevo intervenire, prima sentivo il discorso di Ballotelli, cioè di una persona, di un grande calciatore, il quale probabilmente durante il tempo libero non riesce a impegnarsi. Ma questo perché? Perché i calciatori probabilmente si allenano 3, 4, 5 ore al giorno, non di più. E il resto della giornata che cosa fanno? Allora, secondo me la federazione dovrebbe imporre ai giocatori un corso di studio, un corso di attività sociale, di impegno, come d'altronde fanno invece i genitori per i ragazzi che studiano e fanno fare sport. Perché le grosse squadre, da quello che so, fanno tutto per i giocatori, li prenotano dall'albergo, gli organizzano la giornata. Questi, una volta che finiscono di giocare, spesso non sanno neanche investire loro soldi, quindi dovrebbero fargli fare un corso parallelo di studi durante la loro attività, perché altrimenti loro non formano la loro personalità. E arrivano poi alla fine della carriera, ma soprattutto durante la loro carriera, che hanno giocato soltanto a calcio, ma questo va bene, può essere anche negli altri sport, senza che hanno raggiunto una maturità come gli altri degli altri ragazzi della loro età. Cosa ne dici, Andrea? Dico che i calciatori sono in buona compagnia, insieme a tantissimi altri atleti di altri sport in alcune occasioni, che però avendo una condizione un po' meno privilegiata, qualche volta devono per forza impegnarsi un po' di più e occupare il loro tempo in modo produttivo. Ma sono in buona compagnia perché in generale il messaggio che arriva nella società è quella che se hai un po' di successo in qualcosa di anche abbastanza fragile è più che sufficiente per essere contento e giustificarti e non fare niente altro. Quindi il discorso è, nel caso dei calciatori è frequente perché accade così, ma mi pare che dai reality, da chi è successo in TV e in altre situazioni, siano molti i casi in cui sarebbe opportuno creare un ambiente nel quale il successo si appoggi su qualcosa di un po' più solido e che abbia magari anche un po' la possibilità di durare più a lungo, però un processo generale di cultura di tutto un paese, forse della società moderna. Tanto, visto che si parla di Balotelli, io non sono sempre cruciani, però a Cruciani ho ospitato Confalonieri, prima abbiamo sentito su Ibrahimovic, lo sentiamo anche su Balotelli, sentiamolo. Tecnicamente potrebbe anche essere, però è tanto giovane, insomma, per adesso. Non è ancora da Milan. No, insomma. Non è ancora da Milan. Il Milan non, cioè lei l'anno prossimo non ce lo vede. Sì, ma non Milan. Dimentichi che il Milan ha tre grandissimi attaccanti. Più un quarto in restauro, sì. Che è Pippo Inzaghi, che è un grandissimo attaccante, sì. E più un attaccante, non proprio una punta come si dice tecnicamente, grande che è Cassano. Oh, ragazzi, dall'inizio deve fare l'ospite a controcampo lei, no, lì c'è Mughini che è bravo, che non c'è più poi dall'altro. Ah, non c'è più. No, ora c'è Cruciani a controcampo. La senta, informiamo sui palinsesti. Senta ma il dunque non ce lo vedrebbe l'anno prossimo al Milan. Ma non ce lo danno poi neanche. Niente. Sta al Manchester City, non ce lo vede. E i suoi comportamenti sono da Milan? Ma comportamenti, lei dice falli, espulsioni, vita quello, notturna. Vabbè, ma c'erano anche Sivori, è stato uno dei più grandi giocatori che ha giocato in Italia e non era un santo, insomma. Al talento, al grande talento si può concedere anche qualcosa. È vero? No, c'è da dire che, insomma, se Sivori faceva la sciocchezza, si veniva a sapere in qualche maniera. Adesso se uno fa la sciocchezza ci sono 8.000 giornalisti, 9.000 telecamere, non ti scappa più. Carlo, come la maggior parte delle cose che ci appartengono nella vita, ci sono un sacco di se e un sacco di ma. Non c'è una cosa giusta, una ricetta, un segreto che permette di trovare la soluzione. E quindi qualche volta è vero che un grande atleta che potrebbe essere fondamentale può avere anche un trattamento un po' di favore, a patto che la percezione della coerenza della squadra rimanga tale, a patto. Quindi il problema è che nel momento in cui ti viene rivolta una domanda secca non esiste una risposta univoca, e si fanno i conti col tempo. E quindi nel caso di Balotelli il problema è che non è una risposta secca, ma è qualcosa che si ripete nel corso del tempo e non è neanche confermato o riequilibrato da prestazioni che dicono ah certo, che ti possono, non ti dico giustificare, ma dici ok, sei un pazzo furioso, ne fai una più di Bertoldo, però fai il mio compagno, se io sono il compagno di un grandissimo campione che magari non è il massimo della simpatia, non è magari quello che fa tutto per me, però alla fine spesso e volentieri è positivamente decisivo, preferirei averne uno come Messi, mi viene in mente, non so se sia veramente così, mi pare che sia decisivo e sia anche molto simpatico, molto disponibile, preferisco quello, ma in ogni caso se non mi fa vincere sì, lo tolleri. E poi dopo si vede, però. Ci fermiamo ancora un attimo, 800 24 00 24, per parlare con noi. Ne abbiamo un altro paio, ti avverto, di Perla, di Confalonieri, sugli arbitri, su Leonardo, sul derby con l'Inter. Preparati, ce l'hai l'elmetto? Tutto campo. Ce l'hai l'elmetto? Me lo metto. Vado a prendertelo. Ci fermiamo un attimo. I tuoi investimenti sonnecchiano? Dagli una sveglia al Salone del Risparmio 6-7-8 aprile. Iscriviti gratis su salonedelrisparmio.it. Nel silenzio scorre il tempo, amico. Luna dopo luna. Ecco, il tempo è giunto. Dalle piccole botti di legni pregiati, le prime gocce per il nastro distillatore. Sì, ecco le 18 lune. Grappa le 18 lune di Marzadro. L'arte di saper aspettare. Anche oggi una controversia risolta con la mediazione. E da quando sei un mediatore civile? Da quando ho frequentato il corso di CESD, ente di formazione accreditato dal Ministero della Giustizia. Il decreto 180 del 2010 ha esteso la possibilità di diventare mediatore a tutti i laureati in qualsiasi disciplina. Informati. Chiama CESD all'800 42 13 33. Io scrivo per trasmettere emozioni, idee, storie. Io scrivo. Il corso del Corriere della Sera per migliorare e perfezionare la tua scrittura. Da domani in edicola il primo volume con la video intervista di Roberto Saviano. Scrivere bene. Adesso puoi con Io scrivo. Appassionanti come un romanzo. Avvincenti come un film. Imprevedibili come la vita. I videogiochi sono la nuova passione di Radio 24. Video game. Ogni sabato alle 15.30 Stefano Gallarini conduce Videogiochi. Videogiochi. La rubrica di 2024 che vi racconta le nuove uscite videoludiche come se fossero un film e che vi premia con un buono da 300 euro da spendere da expert. Video game. Videogiochi. Ogni sabato alle 15.30 su Radio 24. A tempo di sport. Dunque torniamo insieme. 800 24 00 24 è il numero verde per intervenire. Abbiamo ancora una mezz'oretta per chiacchierare insieme. Oggi anche due ore e mezza sembrano poche, caro Andrea. No. Sì, rispetto ai ritmi a cui ero abituato, effettivamente sì, oggi sei un po' meno di corsa, però i temi sono talmente tanti e anche divertenti, volendo, al di là dello scherzo, e no? Francamente, al di là del metto, sono anche divertenti. È francamente bellissimo. Dunque, io vi voglio far sentire un altro estratto di questa lunga conversazione, della parte sportiva di questa lunga conversazione dell'altra sera, di venerdì sera, nella Zanzara con Fedele Confalonieri, che ha detto la sua anche su Leonardo. Guardi, la cosa che mi ha colpito di Leonardo è stato la dichiarazione: ho realizzato un sogno. Quello l'ha sentito come un tradimento? Non un tradimento, una parolona, non mi piacciono queste parole, però è qualche cosa che mi ha colpito negativamente. Anche perché ho molta stima per il Leonardo allenatore, anche come uomo, un uomo, io l'ho conosciuto bene, una persona molto per bene, però questo insomma poi non andava molto d'accordo, molto d'accordo con lui, consiglio. Boh, non lo so, no, non credo, ma guardi che l'importante nel calcio è poi vincere i risultati. Tu sei un bravo allenatore se vinci, sei un bravo giocatore se vinci. Oddio, anche nella vita è così, d'altra parte. Capito? Leonardo, tradimento è un parolone, però se non andava meglio, poi insomma, andato a allenare l'Inter, voglio dire, la squadra. Io te l'ho detto invece che è una passione quasi sfrenata per Leonardo. Sì. Sai chi ce l'ha bisogno nel metto, secondo me, questa settimana? Un mio carissimo amico, vero? Tuo carissimo amico. Un elmettone. Serve un elmettone per Marco Nosotti. Buon pomeriggio, Marco. Buon pomeriggio a voi, ciao a tutti. Ce l'hai l'elmettone per la settimana? Insomma. No, io spero sempre che non sia così, anche se purtroppo il calcio ha sempre l'occasione per smentirmi in peggio, ovviamente. Per quanto riguarda i grandi avvenimenti c'è sempre una nota falsa, acci picchia, sì. Forse, non lo so perché, accade. Sarebbe così bello godersi anche un po' di sana e bella competizione così diversa, ma ci sta anche questo, non lo approvo del tutto, lo racconto fino a un certo punto Poi due sere fa Marco è andato a vedere un po' anche la sua passione, perché sua figlia, sì, che gioca a pallavolo, naturalmente, ha iniziato a giocare un 6 contro 6, e Marco, da intenditore e allenatore, Marco, ti comporti bene con tua figlia, vero? Non dai troppi consigli. Sì, no, devo dire che è stata un'iniezione di bellezza, di vedere i sorrisi, la voglia di provare a prendere un pallone. Mia figlia dava 20 centimetri al centrale dall'altra parte, dico i ruoli, ma non lo sanno neanche cosa sono i ruoli, ecco. Però facevano i tre passaggi e cercavano di qualunque modo di superare se stesse, nel riuscire a buttare la palla di là, perché finalmente c'erano gli 8 metri, non sono 9 metri, sono 2 metri di campo validi, ma la battuta la puoi fare da 8 metri, e quindi superare se stessi, poi superare quelli grandoni dall'altra parte che poi hai abbracciato alla fine. Questo a me è piaciuto tanto, e mia figlia aveva voglia di vincere. Prima parlavate di vittorie, non le basta abbracciare la grandona dall'altra parte, però aveva fatto la sua battuta, aveva dato il suo contributo, e sono tornato a casa con te. momento. Eh beh, certo, certo, ci credo, no? Anche perché Vince Lombardi, citato prima, tutti toccano cioè, anzi, aveva ragione al mille per mille. Se non giochi per vincere, punteggio che lo teniamo, gli scout, gli score che li teniamo a fare. Marco, la settimana del derby comunque è chiaro, ci si avvia lì, perché lì bisogna arrivare, lì è il punto cruciale del campionato per gli intrecci che sono creati, e arrivi da un lato con l'Inter un po' sui nervi per questi paralleli impropri che sono stati fatti tra il fallo di mano di Ibrahimovic e cioè quello di Pazzini, con Pazzini che ha male al polso, col Milan che voleva Ibrahimovic nel derby poi non ce l'ha avuto, con il Napoli alla finestra alla ricerca di equità dopo le tre giornate di squalifica alla Vezza, insomma sono tutti temi che non, è inutile far finta di niente, ti troverai addosso in settimana. Sì, ci sono. La cosa che più mi disturba è che a volte, di volta in volta, i protagonisti abbiano la memoria corta. Quando è a loro vantaggio glissano, e quando invece contro, mamma mia. Però sono situazioni che torneranno fuori. Mi è piaciuto Allegri nella giornata di ieri, che ha provato a togliere pressione. Vabbè, Ibra non c'è, mi sarebbe piaciuto averlo, certo, ma facciamo senza, ho tanti altri problemi. Ha spostato un po' l'attenzione sull'Inter, che dice il problema è loro, perché loro devono comunque vincere, io mi posso accontentare un pareggio in forza della vittoria dell'andata. Però sono tutte cose che insisteranno su quella partita, al fischio d'inizio ci sarà tutto quello che hai detto e ancora qualcosa di più, anche cose che noi non ricordiamo, però Lupus, la favola del lupo e l'agnello, troveremo il modo. Marco, per te una domanda complicata, ma c'è un favorito per questo derby? Sì, per me c'è. Per me è l'Inter perché per tante cose. Allora, schematicamente, perché viene da dietro, nel senso che anche chi fa le maratone, chi recupera, anche tu che hai giocato un altro tipo di sport, lo sai bene, stai recuperando, sei 2-1, vai al tie break, vinci il quarto set, al tie break psicologicamente sei avvantaggiato. C'è il fatto che ha tanta qualità in più da mettere in campo Leonardo che non Allegri. Allegri ha avuto una disgrazia, gli hanno preso Ibrahimovic. Siccome Ibrahimovic ha vinto tutti i campionati, quando gli hanno detto "Totò, questo è Ibrahimovic, piacere, sono Ibrahimovic, piacere, sono Allegri, posto che devo vincere il campionato, perché li ha vinti tutti". E non considerando il fatto che a parte Ibrahimovic non c'è, ma li ha vinti dagli altre parti, l'ultima volta l'ha vinto col Barça, comunque io giocavo insieme a Iniesta, Xavi, Messi, ecco anche quel ragazzino lì, che non sono gli stessi compagni che trova adesso. No. Adesso non vorrei. No, ecco, non per dire, sono ma tutto questo insisterà sulle spalle di Acciughina Allegri, vedrete, perché se non vincerà. Marco, ieri hai fatto questa intervista esclusiva che è andata appunto su Sky, e come l'hai trovato? Guardandolo negli occhi, ha un po' di timore, perché insomma non ne ha mai giocato, non ha mai né giocate né allenate di partite così. Esatto. E all'andata c'era il piacere di esserci in questa partita, c'è anche adesso, ma adesso deve fare i conti appunto con queste situazioni, con il fatto che lui guarda in panchina e se dall'altra parte schierano Cambiasso, Thiago Motta e Stankovic con Schneider, lui non ha la stessa qualità in mezzo al campo, perché ad esempio c'è un Pirlo che forse andrà in panchina e non potrà essere utilizzato appieno, non c'è Ambrosini, faccio un esempio, non potrà incidere sulla partita come invece può fare Leonardo, e secondo me è un po' teso, un po' preoccupato, giustamente, perché ha avuto 2 settimane fa l'investitura dal presidente Berlusconi, che alla festa dei 25 anni di presidenza l'ha portato alla ribalta del palcoscenico del Manzoni, ecco, questo è il nostro allenatore con cui vinceremo ancora tanto, ci farà vincere, e saluti a tutti, auguri. Ecco, l'ha lasciato così e diciamo momento, ecco, non è facile, ecco, povero, cosa del genere. Povero Allegri, gli danno Ibrahimovic, sì, e quindi deve vincere, perché tutti vincono con Ibrahimovic, gli tolgono Ibrahimovic. L'importante, non c'è Ibrahimovic, non c'è Ibrahimovic, ma c'è Pato e Cassano, che ci sono Pato e Cassano che non sono Eto'o e Pazzini in questo momento, obiettivamente dobbiamo considerare anche questo, sì, per tanti motivi contingenti, non sono alibi, e non credo che cerchi alibi Allegri, perché Allegri è persona che sa di calcio, vive di calcio, è riconoscente anche di questa opportunità perché se l'è guadagnata, certo. Però obiettivamente un po' di preoccupazione ci sta ed è giusto, ma è bravo a scaricare. Carlo, posso fare una domanda a Marco? Sì, non te l'aspetti questa domanda? Sì. Io ho visto immagini in cui Pato sembra avere una storia con Barbara Berlusconi. è una cosa, esce nei giornali, è un gossip assolutamente non vero, o sono cose che stanno accadendo? Chi parli del genere? Voglio dire, no, diciamo, no, ecco, questa è una battuta che ho fatto per cercare di alleggerire, mi sto giocando la testa, però, beh, il Papa era innamorato, hai visto, dai, ecco, e io credo che l'amore è sempre bello, lo dice lo stesso Leonardo, dall'altra parte, tanto amore, l'amore ha fatto tante cose, e per, nella sua vita è stato molto importante, credo che si augurino anche al Milan che sia importante anche per Pato, perché questa storia c'è, nello spogliatoio si scherzano i compagni, la storia è uscita, sì, certo, penso che siano meglio queste storie qui che altre storie, altre notizie di storie di giocatori che passano le notti non si sa dove, non si sa chi, non si sa come. Quindi Pato è il papero genero. È anche il papero innamorato, meraviglioso. Papero innamorato. C'è un problema, che fare un corso lungo, dare profondità alla squadra, ecco, non so se la signorina Berlusconi glielo possa insegnare, lui però avrebbe bisogno di essere veramente decisivo in zona gol, come sa esserlo, perché se no non se ne cava un ragno, ecco, devo dire, in questa fase. Se lui gioca come ha giocato a Londra contro il Tottenham, trovando la porta ma non trovando il gol, ad Allegri lo ha detto chiaramente, gli piace, se lui gioca in altre maniere non è utile, certo, alla squadra. Certo, certo. Marco, ti ringrazio davvero, un abbraccione, ciao Marco, ti compro un elmetto, l'elmettone, e mi allo stadio. L'elmettone. L'elmettone, adesso serve l'elmettone, caro Marco Rosotti. Adesso capisci perché adoravo fare delle cronache con Marco, sì, perché è troppo bravo, troppo simpatico, mi piace moltissimo lavorare con lui. Allora io ti faccio sentire un ultimo estratto di Confalonieri, perché no, tu muori dalla voglia di sentire cosa ha detto Confalonieri sull'Inter, sul derby, sugli arbitri, su queste cose. Muori dalla voglia, no? Sono qui apposta. Eccolo lì. Abbiamo giocato male due partite, ma non è che loro hanno fatto miracoli. Io ho visto le ultime due partite dell'Inter, non mi hanno particolarmente impressionato. Il Mani di Ibrahimovic è uguale a quello di... No, ma questo non... Guardi, il tifoso sul momento si arrabbia, impreca, eccetera, eccetera. Poi però... In generale si presume, ma io credo che sia così, che il tifoso capisce di calcio, quindi sa benissimo che non è un errore arbitrale che ti fa vincere o perdere una partita, perché se tu hai la squadra forte, vinci. Poi ci vuole anche un po' di fortuna, la fortuna può consistere in un palo, può consistere in una grande parata, può consistere in un tiro sbagliato che era facile, e può consistere anche in un arbitro che fa una svista. Confalonieri, dunque, un ultimo estratto di Confalonieri alla Zanzara. Si conferma essere molto attento, ha molto visto le due partite, le ultime due partite dell'Inter. Gli scappa niente, no? Non gli, secondo te gli scappa qualcosa. Mauro Dall'Aquila, buonasera. Buonasera, lei ha stimolato sull'underdog, no? Sì. Vabbè, è una persona che ha sempre fatto piacere, cui ha sempre fatto piacere pensare in queste vesti, però dell'underdog della vita se l'è goduta veramente da dentro, è Garella, il famoso portiere che chiamavano Paperella alla Lazio, no? Sì. E se ci pensiamo, questa è una persona che non ha avuto successo in nazionale, non ha avuto risonanza internazionale, però è andata a vincere uno scudetto col Verona. È andato a vincere scudetti con Napoli, che non sono né Inter, né Juventus, né Milan, e quindi mi pare un splendido esempio di underdog. Ha ragione, portiere senza particolare talento, molto strano, molto simpatico, molto facilmente riconoscibile tra la pettinatura, lo stile sgraziato, eccetera, che però ha giocato con Maradona, ha vinto lo scudetto, ha giocato nel Verona dei Miracoli, e quindi alla fine una grande soddisfazione, grandissime soddisfazioni, pur essendo uno senza particolari talenti, se le portate a casa, addirittura inventando uno stile, parata alla Garella. Aiutami a ricordare, nel campionato di Serie A di calcio, qual è l'ultima... Fare domande difficili, no, questa, no? L'ultima volta che ha vinto una squadra underdog, perché cioè, Cagliari 70, Verona, quindi un sacco di anni fa. Qualche annetto fa. Allora, è già in linea Filippo Maria Ricci dalla Spagna. Prima di salutarlo e di sentire il traffico, io gli faccio direttamente una domanda, perché vuole la risposta un ascoltatore. Vogliamo conoscere la storia di underdog preferita da Filippo Maria Ricci, con il suo modo divertente e spensierato che ha di narrare. Lo scrive un ascoltatore, allora preparatevi, perché dopo il traffico Filippo Maria Ricci ce la racconta. Strade in diretta. Piemonte, sulla diramazione per Pinerolo si rallenta per un incidente tra lo svincolo di None e Candiolo verso Torino. Sulla 10 Genova Ventimiglia si incontrano code per lavori tra Renzano e Voltri verso Genova. Sulla 15 della Cisa ci sono code per lavori tra la 12 Genova-Livorno e Aulla in direzione Parma provenendo da Livorno. Code per lavori anche sulla Firenze e Pisa-Livorno tra Pontedera Ovest e Montopoli-Valdarno in direzione di Firenze. In Sicilia si rallenta per lavori sulla 19 Palermo-Catania tra Bagheria e Palermo provenendo dalla città di Catania. In entrata a Roma rallentamente code a tratti per il traffico sulle due diramazioni dell'Autosole e sulla 24 Roma-Teramo. Traffico intenso anche in entrata a Milano sulla 4, sulla 8 Milano-Varese e sulla tangenziale Ovest. Ci sono code verso la Svizzera, infine sulla 9 Lenate Como Chiasso per operazioni in dogana tra Como Montolimpino e Chiasso. Ed è tutto, il prossimo aggiornamento di Strada in Diretta tra mezz'ora. Promo 24. Essere all'avanguardia significa non smettere mai di evolversi, e la tecnologia di Audi A4 supera ancora se stessa con le nuove versioni Ambiente Plus e Advanced Plus. La versione Ambiente Plus è concepita per il comfort di chi viaggia e offre tra gli altri climatizzatore automatico a tre zone, sensori di parcheggio posteriori, interfaccia Bluetooth, regolatore di velocità e sistema di navigazione con DVD. La versione Advanced Plus è invece progettata per chi ama l'aspetto più sportivo di Audi A4 e contiene fari Xenon Plus con luci a LED, cerchi in lega da 18 pollici, pacchetto S-Line Exterior e Open Sky. I nuovi allestimenti sono disponibili per Audi A4 e A4 Avant con un vantaggio cliente superiore al 50%. Maggiori informazioni su audi.it. A tempo di sport. C'era del contendere, c'è anche con gli ascoltatori. Dopo il Verona direi la Samp, però la Samp di Vialli, Mancini, di Paolo Mantovani eccetera, era una squadra non esattamente pronosticata, che però non ha sorpreso l'universo mondo per aver vinto lo scudetto, tanto che l'anno dopo ha giocato la finale di Coppa dei Campioni con Barcellona perdendola. Un po' meno underdog. Pochino meno underdog, no? C'è chi diceva, Giorgio De Luca dall'altra parte del vetro, la Lazio di Cragnotti era multinazionale, poi abbiamo scoperto diverse cose, però lasciamo stare. Era uno squadrone la Lazio di Cragnotti. Allora, Filippo Maria Ricci. Buon pomeriggio. A lei. Oggi mi inviti a nozze perché ce n'ho una fresca di sabato. Cioè? Il Botswana che si classifica per la prima volta per la Coppa d'Africa. E con questo già abbiamo sbaragliato la concorrenza. Pensavamo di coglierlo in castagna. Ma lui ne sa una più del diavolo. Vince 1-0 a N'Djamena, e non dico altro, capitale del Chad, e per la prima volta nella sua storia va a giocarsi la Coppa d'Africa. Nel girone aveva la Tunisia e il Togo. E quindi insomma, più di così impossibile. No, cioè. Sì, però questo è di oggi, questo è l'underdog di oggi. Sì, l'underdog generale, il Wimbledon che batte il Liverpool nella finale di Coppa d'Inghilterra nell'88. Sì. È quello con che più ti ha colpito. Vinnie Jones, Dennis Wise contro i grandi Grobelaar, Alan Hansen, John Barnes, Peter Bursley e via dicendo. Ti piace la Crazy Gang che vince contro il grande Liverpool? Sì. È una bella storia, era divertente. Già che sono anche lo Chateauroux in Francia arrivando alla quarta sesta. Però sì, appunto. Vabbè. Però sono meno. Sì, anche c'è un'altra squadra francese arrivata in finale, no? Ci hanno fatto anche un. Forse Calais, ma qui però rischiamo di terreno minato. Esatto. Nella nostra insipienza. Se volete, è un underdog un po' strano questo qui, ma c'è una squadra di calcio thailandese di ragazzini che vivevano in una piccola isola, talmente piccola che non potevano allenarsi a calcio. Hanno costruito con le zattere un campo con le tavole. Hanno iniziato ad allenarsi, a partecipare al campionato e sono arrivati campioni regionali. La cosa la so perché, guarda caso, una banca thailandese ci ha fatto uno spot meraviglioso. Mi lascio immaginare questa isola bellissima nel mar della Thailandia, ai bambini che vanno con le tavole a costruire il campo in cui iniziano ad allenarsi e poi vincono il campionato regionale. È sicuro che è vero, non è un reality. Dicono sia basata su un avvenimento basata vero, su una storia su vera, una storia poi vera, magari liberamente narrata. O magari il campionato giovanile regionale. Sì, sì, sì. Però sì, intanto questi ragazzini che raccolgono le piroghe e si costruiscono con i tavoli l'area di rigore era molto bella. Non è male. No, perché Filippo Maria Ricci è impossibile cogliere in castagna, massimo esperto vivente di calcio africano, dunque sai quante te ne tira fuori. No, oggi poi sto scrivendo di questo, mi è piaciuta troppo questa storia. Questa è una squadra veramente come, poi si sono classificati per primi, è come se, non so, il Liechtenstein fosse già qualificato per Polonia e Ucraina. Cioè è lo stesso livello, poi dopo uno può dire c'hanno un attaccante che ha fatto 5, hanno fatto solo 7 gol per qualificarsi, 5 li ha fatti uno che non gioca da un anno in nessuna squadra, sta aspettando il transfer, capisci, queste cose africane, no? Aspetta. Io da non esperto di calcio ricordo i due europei, quello della Danimarca e della Grecia, che furono, esatto, è quelli lì, sì. Sì, ottimo, ottima citazione. No, qua in Spagna ricordano sempre l'Alaves, che arrivò a perdere la finale UEFA contro il Liverpool qualche anno fa, 5-4 la finale, qualcosa di simile. Però insomma, sì, la squadra di Vittoria, insomma, una squadra piccola, però quelli sono così episodi, sì, puntuali. In Italia non so, ma il Parma è stato underdog per tanto tempo, dai. Sì, no? Underdog, però spendendo molti quattrini, e qui lì non, beh, vale, all'inizio c'è, no, dai. All'inizio forse no. Beh, all'inizio forse no, poi è arrivato Tanzi, sì, insieme a Cragnotti, e poi insomma non potevamo, infatti, più dire, infatti, underdog. Poi c'erano i quattro. No. Quando ci sono di mezzo troppi soldi, la parola underdog non ci non sta bene, più, dai, di tanto, secondo me. Allora, prima di salutare Filippo Maria Ricci, tu sai che lui è amico fraterno ormai di Mourinho. Se vuoi chiedergli qualcosa su Mourinho, Andrea Zorzi, fallo pure. Mi basta la sua opinione, ti è simpatico? Sì, è simpatico, sì. È molto l'adora, simpatico, è un grande attore. Vabbè, scusa, le due cose non vanno d'accordo. Un grande attore, che significa che dice un po' quello che deve dire per recitare bene il suo ruolo, e non necessariamente questo è un aspetto positivo. No, però lo fa bene, con simpatia, anche quando è antipatico, secondo me ha una grande, in realtà lui ride, e quindi ha un, come quegli attori comici che ogni tanto vengono chiamati a ruoli drammatici, però lui resta un grande comico, secondo me. E resterà in Spagna? Sì, secondo me sì. Beh, adesso può succedere di tutto, ma dire sì adesso con 5, con il confronto finale, la sfida finale, esatto, totale mondiale tra Barcellona e Real Madrid, mi sembra azzardato, è difficile, però io dico che resta, ma secondo me oggi non si può dire niente, Filippo, non si può neanche dire se resta in piedi il Bernabeu, cioè, voglio dire, deve giocare 4 volte contro Guardiola, che vanta solo un 16-2 contro il Real Madrid, capisci che è un momento un po' particolare della sua carriera, però se ne esce più o meno vivo con, sì, qualcosina, magari, no, dovrebbe restare. Poi cioè, è chiaro che se arrivano altre 5 manitas, insomma, basta. No, non, guarda, no, oggi... no, secondo me adesso ho detto tutto, insomma, io penso che resti. Questo è quello che ti auguri tu, ma poi la storia la faranno questo confronto finale tra Barcellona e Real Madrid in più puntate. Grazie Filippo, mi raccomando, metto anche per Filippo Maria Ricci, che con questi in Italia non c'è una partita che possa essere equiparata, no, a Barcellona Madrid. No, sai, c'è il derby di Roma che è sentito probabilmente a Roma nella stessa maniera, però Barcellona Real Madrid lo giochi per un Milano Roma, la Coppa dei Campioni e la Coppa del Re in questo caso, insomma, quindi non esiste niente di paragonabile. Giacomo Bagnasco, buonasera. Buonasera a tutti. Prima della fredda cronaca sul rugby, vogliamo anche da te una storia rugbistica di underdog. Beh, insomma, forse ce l'abbiamo proprio in casa ed è la partita giocata ieri a Viadana e vinta finalmente dagli Stroni, però ce ne sono anche altre, sicuramente un esempio è stato quello dell'Italia che ha battuto la Francia ad alti livelli, altri esempi sono stati le due vittorie clamorose della Francia proprio contro la Nuova Zelanda nel 99 e nel 2007, quando sembravano strafavoriti, hanno incontrato questa bestia nera, e qui ci sono alcuni casi, altri si possono sempre ricordare, c'è una vittoria della Scozia nell'ultimo Cinque Nazioni, quello del 99, grazie al Galles che all'ultimo minuto batté l'Inghilterra giocando a Wembley, un caso veramente particolare, il Galles usava Wembley come terreno di casa perché si stava preparando il Millennium Stadium, sì. E l'Inghilterra stava vincendo il Cinque Nazioni facendo anche il grande slam all'ultimo minuto, ha preso una meta trasformata, ha perso tutto, insomma ce ne sono, anche soltanto. Se è uno sport in cui di solito molto più che in altre discipline chi è più forte finisce per prevalere, o meglio chi è più forte almeno in quel giorno preciso finisce per prevalere. Certo, quando gli scarti sono limitati può anche succedere, certo, che un episodio, certo, sia decisivo. Certo. Giacomo, un amico di L'Aquila del rugby mi dice che negli anni 90, quando L'Aquila vinse lo scudetto contro la corazzata Milano, quella era una dell'underdog da ricordare. Ah, questo è stato veramente una grandissima sorpresa. Se parliamo appunto di rugby di club anziché di nazionale, è stato veramente una grandissima sorpresa. Nel 94 il Milan era superiore su tutti, ma non di una spanna, di parecchio in più. L'Aquila era arrivata in finale, sembrava che si potesse più che accontentare di questo risultato, invece vinse questa partita. Come succede spesso, può essere che ci sia una squadra decisamente più forte dell'altra che però non mette in conto alcune difficoltà che può incontrare e non riesce a quel punto a ricalibrarsi, non riesce a quel punto a essere di nuovo pronta a affrontare una partita diversa da quella che si aspettava. Però fu veramente una grande partita nell'anno, non vorrei metterla troppo in politica, ma di un Berlusconi pigliatutto, perché no, Berlusconi, certo, aveva, certo, vinto le elezioni, aveva stravinto la Coppa dei Campioni, e il Milan, che era faceva parte di questa polisportiva che faceva capo alla Mediolanum, era strafavorito anche nel rugby, e in quel caso L'Aquila sicuramente fornì una grandissima sorpresa. E lasciamo stare la pallavolo, dove si era pigliato tutto pure Andrea Zorzi. Esatto. Grazie Giacomo, dobbiamo chiudere purtroppo. Ricordiamo solo il 25-13, sì, con cui gli Aironi di Viadana ieri hanno battuto il Connacht, la prima vittoria nella Celtic League. Insomma, ci voleva miglior giocatore, sì, un giovanissimo italiano, Furno. Questo è un buon segnale. Grazie Giacomo, ti sei divertito Andrea? Moltissimo. Oh, meno male, così l'unica cosa che mi preoccupa è questa, così torni sabato. Ciao a tutti, spero. Grazie. Grazie Andrea Zorzi, grazie a Giorgio Luca in redazione, Cristiano Bartelloni pure, Fabio Cantadone in regia. Ci sentiamo alle 8:30 per il basket.